Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Bentornati, signori miei, domenica 30 aprile del 2017, sempre in diretta qui da Radio 24, dalla sede di Roma. Abbraccio la sede di Milano che ci permette la messa in onda. Saluto dall'altra parte dello schermo, di fronte a me Alessandro, il nostro immancabile tecnico del suono, Rachele, la nostra caporedattrice di se stessa, i miei grandissimi autori Alessia Navarro e Mauro Meconi. Il derby è messo da parte. Va bene, sì. Puoi anche parlare. Anche se no, l'ospite... è andata. È andata così, però non voglio che gli... i radioascoltatori di un'altra sponda cambino canale, ma in questo momento hanno tutto meno il pensiero di seguire magari in questo momento Voice Anatomy. Sì. Cioè, chi soffre, chi gode. E vabbè, succede nella vita anche, sì. No, dalla vita in giù, succede così, spesso. Bianco e nero. È quello, eccolo là. Vabbè, ha detto soltanto i colori sociali della sua squadra d'appartenenza. No, il colore dei capelli. Cioè, il bianco e il nero. Esatto. No, cioè... Volevo presentarti tra un po', ma lui è Alessandro, no, Benvenuti, sì, scatta l'applauso veramente, stato. Sì, lo sei da tanti anni, tutta la vita, è da tanto che sei Alessandro Benvenuti. Io sono veramente orgoglioso anche a mio fianco, però voglio aprire come sempre ricordando una voce che ci ha ricordato e ci ha raccontato e regalato parecchi momenti bellissimi. Non c'è più perché se n'è andato il 30 aprile del 2015, il 30 aprile oggi, e noi lo ricordiamo così: il signor Benjamin Earl Nanson, meglio noto come Ben E. King. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by. Pensate che questo brano Stand By Me ha raggiunto per due volte il primo posto nella classifica dei singoli e la seconda nel 1986 in occasione dell'uscita nei cinema del film bellissimo Stand By Me, ricordo di un'estate, tratto da una novella breve, non da un romanzo, di Stephen King. E allora abbandoniamo, ma lasciamo in sottofondo. Bello comunque. Vabbè, tu che ami la musica, ricordi. In maniera. Sì, tanti ricordi, è vero. Sì, bello. Non dire tanti ricordi. No, perché... sono quelle canzoni che io sono partito come cantautore. Diciamo, sì, infatti, l'avrei fatto questa. No. Esatto, l'avrei fatta questa domanda. Beh, ho degli autori veri. Lo so. Hanno vissuto sotto casa tua e della tua signora per giornate intere. Cazzo, sono stato pedinato. Ecco sì, cos'era. L'ombra sinistra. Esatto, anche destra. Cioè, anche tutte e due gli angoli. Tu sei nato il 31 gennaio del 1950. Si può dire. Perché normalmente quando vengono le attrici, le donne, eccetera, no, per l'amor di Dio, c'è gente che fa 40 anni da 15 anni, per cui non conviene dirlo. Tu sei attore, sei commediografo, sei regista, sei sceneggiatore e sei uno scrittore. Ma io voglio cominciare dall'inizio, a parte dire immediatamente che tu vai di corsa, anche perché fra un po' hai la pomeridiana alla... Della Cometa, chi è di scena? Sì, non voglio scena, sbagliare. Sì. No. Però voglio parlare poi di questo spettacolo perché è molto particolare. Un po', sì. Poi non sei lontano, per questo ti ho convinto. Bravo, infatti io ho accettato molto volentieri. Sì, perché tu devi fare Via Nazionale, Piazza della Repubblica, Via Nazionale, Piazza Venezia, prima a destra e c'è il Cometa. Sì, è quello là. E per cui non hai scuse. No, non c'è verso. No, ma poi mi faceva piacere venirti a trovare, dai. No, tu sei veramente un grande amico. Io lo dicevo prima all'altro ospite che presenteremo tra poco, perché faremo il primo esperimento di magia per radio. È come fare una lezione di mimo per radio, è la stessa cosa, cioè, sì, però è curioso perché poi il mago gentile Gabriele si è prestato a questa operazione, che questo è Voice Anatomy, non è Hands Anatomy o Body Anatomy, anche se Rocco Siffredi ci ha chiesto di venire ospiti, non saprei come giustificarlo, però lo chiamerò. Succederà. Sono tolto la giacca io. Meno male, parlo quando Rocco si fa bollente. Esatto. E voglio ricordare il numero per prenotarvi, perché giocherete con noi, non si vincerà niente, ma giocherete con noi per vedere, insomma, che è vero tutto questo? Allora il numero 800 2400 24, non è difficile. Gabriele, tu sei già qui vicino a me, sei già in cuffia perché assiste. Ci anche, sono. Perché ci vieni sono. Da lontano, tu vieni dal nord, no? Assolutamente, arrivo da Savona. Da Savona, nella, in quel posso ricordare una cosa a coloro che giocheranno nel microfono, magari. Sì, lo diciamo nel microfono. Che è una cosa fondamentale. Sì, radio sì. Sarebbe bello avere una penna e un foglio. Sì. Se qualcuno ha un mazzo di carte possiamo anche usarlo. Immagino. E poi servirà una moneta. Benissimo. Una penna. Una complicatissimo però. È una chiave, basta. Beh, capito, una chiave, una penna, una moneta. Un foglio, un pezzo di carta. E 15.000 euro. Sì, il biglietto di piccolo taglio. Va bene. Senti, io voglio cominciare dall'inizio, Ale, perché sono un po' curioso, perché io ti ho amato, lo dicevo prima Gabriele, siamo cresciuti nella vostra ombra. Voi, i precursori veri della nuova generazione dei grandi comici. Poi avete preso tanta luce anche voi. Sì, ecco. Avevo preso personalmente, sì, ma siamo nati all'ombra vostra solamente. Tu nei primi anni 70 hai fondato il famoso gruppo dei Giancattivi, ma non c'era ancora Francesco Nuti, c'era Paolo Nativi e Tina Cenci. Sì. Com'era la tua vita prima di questo sodalizio artistico, prima della nascita dei Giancattivi? Ma in cerca di me, insomma. Non... Tu sei toscano, io di sono Montassieve. Toscano, ma vengo da una famiglia operaia dove, insomma, fare l'artista, sì, qualche artista in famiglia c'era, ma così, d'aia, insomma. Anche tu sei figlio d'Artri. Sono figlio d'Artri, sì. No, e quindi ho avuto la fortuna di fare il servizio militare, cosa che non tutti possono dire, perché, certo, insomma, per il servizio militare quasi tutti raccomandati. E invece lì ho trovato delle persone che mi hanno convinto che potevo farlo di mestiere, sono finito. Perché tu sotto le armi facevi teatro. Ero nella banda divisionale Mantova, la maggiorette, il mazziere. E quindi avevo tutti i peggiori elementi degli anni, erano tutti lì che facevano buca, tutti i musicisti, jazzisti, rocchettari e altro, insomma. Quindi, che tu nasci come musicista? Io nasco essenzialmente come musicista, anche se mi sono tenuto bello al coperto, perché insomma, sì, da morire. Io sono molto timido, per cui faccio le cose. Tu sei una persona timida, è vero? No, sei discreta, sei educato. Ho fatto il cantautore timido, diciamo così. Beh, hai inciso qualcosa? Sì, tanta roba. Sì, ma non ha spazio sul mercato, non lo so perché. Ma tu devi tornare con quella roba e le presento in un altro ma modo. Ma se vuoi, io come ti faccio sentire delle cose che tu neanche ti immagini. Ma che genere è? Sono curiosissimo. Io sono Zappiano, per cui... Ah, sei Frank Zappiano. Sì, Frank Zappiano, per cui ecco, vado tra l'ironia e l'anima in qualche modo. Quindi vado in quelle zone. Che suoni? No, io suono, io strimpello la chitarra, ma ho una grandissima facilità di composizione. Parole e musica insieme, vengo posseduto. Ma qui già ti nomino, grande, Alessandro, no. Benvenuti, già ti presentano, già... Alto, altissimo, bene. Alessandro, altissimo. Sei 1,90 e passa. Sì, e passa, sì. E ma passerà anche quello. Per cui nasci così, come tu musicista. Sei un rocchettaro. E infatti tu lo sai, perché lo sei, nel senso che chi fa comicità, se non è un musicista, se non hai tempi. Ritmi, non hai tempi, e quello è quindi fondamentale. Perché non abbiamo fatto un gruppo, cioè musicale. Ma abbiamo fatto tanti errori noi nella vita, esatto. Abbiamo evitato di farne uno in più. Insomma. Esatto. Ma lo faremo. Senti, a questo punto si è formato il trio dei Giancattivi, sì. Lì ancora senza lì dove? Lì nella naia, dopo la naia, dopo la naia. Hai deciso di fare questa strada. Ho risposto a un annuncio sul giornale, cercavo lavoro, uno cercava attori, cantanti, mimici, chitarristi. Esatto, io ho risposto e ho vinto il provino insieme a questo Paolo Nativi e lì c'era anche Tina Cenci che era la consigliera di quello che faceva il provino. Una bella cosa, perché in un'intervista tu hai dichiarato che te e Tina eravate due enormi rompiscatole, non no? Posso garantire. E che quando il gruppo iniziasse a calcare il cabaret eravate così alternativi che non ve volevano neanche gli alternativi. No, abbiamo dovuto, sì, abbiamo fatto un circuito alternativo al circuito alternativo. Ma è così, ed è andato anche molto bene. Eravamo il refugium peccatorum di tutti i cabarettisti d'Italia negli anni 70, perché nei nostri teatri facevamo quello che oggi si potrebbe chiamare sperimentazione, o meglio, non oggi, perché oggi ce n'è molto. Sperimentazione sempre comica, ovviamente stavate sempre su una strada comica. Diversa dal nord, diversa dal sud o dal centro. Io mi ricordo che c'era Maurizio Micheli, per esempio, che era un mio caro amico, che ogni tanto ci chiedeva: mi fate tornare a fare due o tre date da voi perché mi devo rimettere la bocca, perché era l'unico, erano gli unici spazi cabarettisti davvero, insomma, liberi in Italia, dove c'era un pubblico davvero eccezionale, e quindi era una soddisfazione, perché aveva talento e lui ce l'aveva, insomma. Sì, Maurizio, era una soddisfazione venire da noi, insomma, che il pubblico era preparatissimo. Ma dopo chiamiamo, insomma, Maurizio, figurati, se non stai in riposo saranno 15 anni che non lo sento. talento, ma lui è stato... io ho visto, è venuto qui, è venuto, un personaggino anche lui, delizioso anche lui, veramente. Senti, a quel punto è successo qualcosa, il trio è cambiato per un problema anche sì, diciamo che abbiamo cambiato 3-4 volte il terzo, perché era difficile stare accanto ad Atine e a me, eravamo molto pignoli, un po' troppo pignoli. Sì, dopo due anni e Francesco mezzo, quando è entrato? Francesco è entrato quando il terzo, prima di lui, ci hanno proposto di fare Non Stop la televisione. Sì, infatti volevo arrivare lì, perché poi è stato terzo, il momento, lo sliding doors della vita. Antonio Catalano non voleva fare televisione, quindi ha detto a me non mi interessa, e quindi è rimasto vacante il posto. E lì? Un amico dell'Arci di Firenze ci ha detto: guardate, c'è uno che somiglia molto a Tonino Catalano, fa le festicciole dell'Unità o feste dell'Unità, perché sono andato a trovarlo, e quindi Atina io nascosto costantemente siamo andati a vedere questo elemento, esatto, che somigliava un po' a Benigni, questo Catalano. A Benigni e a Catalano, e quindi l'abbiamo visto, e Atin ha detto pigliamolo, e ha detto sì, pigliamolo. È venuto ed è stato bello. Importante, perché insomma, infatti non vedo l'ora di arrivare proprio al momento importante, lo sliding doors vero della vostra vita, che è stata questa trasmissione storica dove sono nati tutti. E pensa che ci hanno messo un mese a convincerci a farla, perché io non avevo televisione, io avevo solo lo stereo, poi non sapevo che cosa fosse, quindi che poi fu una trasmissione innovativa, non c'era presentatore, c'era niente, era fatta da un genio, insomma, quindi regista che non c'è più, Trapani era un genio totale, un pazzo scatenato, ma era un visionario, insomma, e quindi lui ha fatto le cose forse più importanti insieme a Falqui della televisione. Falqui ancora, io l'ho sentito per fargli gli auguri. Bello lucido. De ultra ottantenne, lucidissimo, straordinario. Quella vera televisione. Ma lì, insomma, lo ricordo magari per i più giovani che sono all'ascolto di Voice Anatomy, hanno stop da Verdone al trio Smorfia di Massimo Troisi, De Caro, i gatti. Noi, insomma, tanta roba. Veramente tanta roba. E non si vedeva l'ora di vederla. Era quella trasmissione che, anche se dovesse uscire adesso una trasmissione con quel gruppo all'interno, con quei gruppi all'interno, avrebbe gli ascolti maggiori. Non è però all'epoca tu andavi in prima serata alle 9, 30 milioni di italiani ti vedevano. Sì, è vero pure, è vero, certo, ma c'era pure Ciccia. Adesso hai fatto qua, hai più visto gruppi che fanno, io non voglio parlare di me, no, che fanno sketch, che scrivono queste piccole storie drammaturgicamente molto più complicate della barzelletta e del monologo, con tutto rispetto del monologo. Non permette più comunque questi mini atti unici, perché adesso in 3 minuti, 2 minuti devi dimostrare che sei. 100 secondi. Il Sarchiapone oggi non sarebbe mai esistito. 15 minuti di Sarchiapone no. E noi siamo più o meno tutti figli anche del Sommergibile, 12 minuti di Walter Chiari. Appunto. No, belli! Non so, ma i tempi erano diversi, c'era più pazienza nell'ascoltatore, c'era meno frenesia, meno canali, meno tutto, per cui il tempo era più rilassato. Sì, è come gli sceneggiati o le fiction, però tu te guardi quegli sceneggiati, c'era gente con l'Empals. Sì. Adesso rischi di sentire persone inascoltabili, con rispetto, ripeto, non voglio massificare né globalizzare quello che sto dicendo. C'è gente molto brava, non parlo ovviamente di Zingaretti, Favino, eccetera, insomma parlo delle persone che magari si avventurano. E quando la quantità si allarga, la qualità si restringe. Oggi c'è tanta più richiesta, e quindi però ovviamente... se lo sketch funziona, Alessandro, funziona, cioè quella cosa è una comicità moderna, fa ridere o non fa ridere, non è che c'è. Ma ognuno ride a modo suo, cioè ognuno trova i suoi appigli, e insomma dai, io ho una mia idea, però non è detto sia quella giusta, sicuramente è quella giusta per me. Certo, questo è bellissimo, questa l'ho detta io, questa l'ha detta lui. Mi pare che mia sia stata mia, è tua, posso dirlo, tranquillamente. Senti, chi va convinto comunque a fare uno presto, stop? Grazie, un po' me la rendi, bene, ci tengo. Siccome una battuta, uno spettacolo, quanti convinto? Anni hai? Chi va convinto a fare uno stop poi all'ultima essendo alternativi dell'alternativa? No, ma guarda, hanno insistito talmente tanto. Bruno Voglino, praticamente, era il capostruttura o era il direttore di rete? Sì, già, il capostruttura. Capostruttura, ed era anche lui un piccolo genio. E fu lui che ci convinse, ma dai, fatelo. Comunque, fu Massimo De Rossi. Massimo De Rossi è un bellissimo attore. Lui era nei nostri teatri, e quando si dissero c'è anche Massimo De Rossi, ma convinto aveva, perché c'era lui. Certo, perché per non era lui, copio, era Massimo De Rossi, era un attore. Però il bagno finale, lo spettacolo che faceva era strepitoso. Però anche lui è un alternativo vero. Ma lui era un attore, e ci convinse il fatto che se un attore come lui accetta, faceva Non Stop, allora potevamo farlo anche noi. Insomma, vie proprio trasversali. È come me con Scorsese, se De Niro non ci fosse stato non avrei mai accettato di fare il cacciatore. Ecco. Ero il cervo all'inizio, morto quasi subito. Capito come succede? No, Pino, infatti è questo che succede. Sei particolarmente radioso oggi, chissà sempre, perché. Perché mi frequenti sì, poco. No, ma oggi particolarmente. Ma sai quando ti tu sei maieutico, io sono maieutico, non è una parolaccia. No, no. Uno si attacca le cose all'altro. Ma sono d'accordo. Mago Gentile, come dirò, ci vorresti far sparire entrambi oppure vorresti sparire tu? Io vi porterei a casa tutte e due. C'è un treno alle 19:37, binario 3. E dove andiamo? A Savona? Non voglio andare in scena adesso, fra poco sta alla Cometa. Non è che uno dei re magi, la Cometa qui a Roma. Guarda che la Cometa è più lontana di Savona, La Cometa è quella del 25 dicembre, sì, 24 notte, ma questa è molto più vicina, capito? Va bene, Alessandro, stai ancora un'altra mezz'oretta con noi? Io starei qua. Sì. No, tu sì, devi stare volentieri qua. Volentieri io starei qua. Poi c'è il taxi, 10 minuti sto e ti porta alla Cometa. Sto qua. Chi è discendo? Promesso. Va bene. Allora io do la linea alla regia. Sì. Va bene. Sì. Restate con noi. Sì. Voice Anatomy. Sì. Senti come lo dico. Sì. È appena cominciata. Oh. Ecco. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, come promessi, siamo ancora qui. Alessandro, benvenuti alla mia sinistra, ma il mago Gabriele Gentile, che sta per preparare questo primo gioco radiofonico di magia, illusionismo. E c'è già qualcuno che sta telefonando, anzi parecchi, io devo avvertire che insomma non ci sono troppi posti, 3-4 persone, ma già hanno telefonato in 5-6. Però insomma telefonate al 800-24-0024, vi ricordo di avere una penna. Beh, una penna, un foglietto di carta. Foglio di carta, una moneta. Una moneta, una chiave, e una penna biro. E una, vabbè, la penna, la penna è biro, la stessa cosa. Assolutamente. Magari anche un anello. Un anello. Un anello. Ma chi è che tiene conto? Qua? Pensate che questi giochi li avrebbe fatti anche il grande Houdini, ma non c'era Radio 24 all'epoca. No, ecco. E quindi non li ha fatti. Caro Gabriele, per te Radio 24 finisce qui. Andiamo avanti. Perché insomma, non puoi dire che non c'era Radio 24, quell'ironia terrificante. No, sai, capito che era ruffiano. No, teniamolo. Sì. È un caro ragazzo. Ma certo, benvenuti. Sì. Vediamo se riconosci questo momento della tua vita insieme ai Giancattivi. Ascoltiamolo. Ciao ragazzi, Ale. Ciao Mosca, Ale. Oh, sono tornato. Allora? Sono stato da quelli lì con quella lettera di Don Filippo Struzzo, no? C'è scritto che noi siamo tre orfanelli, tanto disgraziati e tanto bisognosi di tutto. Loro mi hanno visto e mi hanno dato il posto. Domattina comincio. E ora che saresti? Rappresentante di libri delle edizioni Paperine. Paperine? Paperine? No. Topolino. Paolini, edizioni Paolini. No, edizioni Paolini e Paperine. Giamaica, te guarda, zitta e subito, Allora, senti, la cravatta e la giacchetta? E me l'ha dato Don Filippo Struzzo. Mi ha detto, tieni vai, fidate te questi, tanto in Mozambico stanno meglio di voi. Bella boscia, ragazzi, Struzzo. Bella boscia, Filippo Struzzo. Adesso me l'avrebbero fatta passare sta cosa. Ma non so, guarda, quanto abbiamo lottato contro gli autori in quel senso. Ti credo. Li ho dovuti minacciare di morte a proposito degli sketch che tu dicevi prima, certo. erano convinti, diciamo così, che i tagli che ci facevano in questa trasmissione fossero necessari, e vai a spiegare che invece la struttura era quella, per cui se non c'erano certe premesse non si rideva, perché era una adesso noi l'ascoltiamo per radio, ma lì era in televisione Rai 1, alla fine li ho dovuti minacciare di morte perché sei alto un 2 metri, perché non tagliassero più nulla, per dirti, no? E certo. Comunque vedi che c'erano lotte, c'era tanta pesantezza della censura, c'era tanta censura. No, a me mi hanno tolto soltanto un paio di cose, perché abbiamo fatto una volta su Rai 1 il recital di Natale dal Teatro Tenda di Piazza Mancini. Beh, all'epoca c'era, per cui droghe o cose un po' me l'hanno tolte. Esatto. Però perché era proprio Natale, insomma. Certo. No. Però c'era cominciava a esserci la presunzione, che è quella che c'ha tanta gente oggi come di operatori culturali, di sapere che cosa vuole il pubblico. Certo. Quando invece tu il pubblico lascia che decida da sé che cosa vuole, no? E quindi lì cominciarono le prime lotte, diciamo così, verso non i censori, quelli che pensano di essere intelligenti per gli altri. Esatto, quelli che pensano di stare a casa. A parte autori, meno prima la parola autore era con la maiuscola, c'era gente che scriveva davvero, direi, no? Sì. Adesso sono scalettatori. A parte i nostri di questa trasmissione, che questi sono preparati. Hai visto che domande, scusami. Livello alto, qui abbiamo Lo vogliamo dire. Ma è laureata, Alessia Navarro è laureata, ecco, io ho fatto l'ISEF, lo vedi al corpo. Ho fatto 5 anni di ansia classica, come dice mia figlia Carlotta. Ma tu che hai studiato, 5 anni di ansia classica. Ansia classica. Se, beh, è così, cioè, anche Mauro Meconi sta ai domiciliari. Ottimo ragazzo. No, ottimo ragazzo. Sì, però sfrutta molto bene il tempo che domicilia, insomma. Diciamo. Sì, si a scrivere bene, preparato, molto tempo libero. Sì, sì. Perché lo prendo in giro, ovviamente, lui dice, non devi dire queste cose, come che la gente ci crede, perché ha fatto romanzo criminale, allora pensano... Eh beh, se ha fatto romanzo criminale, qualcosa sarà. Ma ha fatto pure 3 metri sopra il cielo, insomma, per cui faceva pollo e morto. Up and down, insomma. Hai capito, fa il buono coglione e poi fa quell'assassino. Questo io non lo direi. No, beh, pollo era così, diciamo, 3 metri sopra il cielo. Poliedrico. Però è un bravo attore poliedrico. Ha capito, è poliedrico. Non era riferito all'uomo. Non so dove sei ritirato, ma come sta a sentire, guardalo. Ha perso 3 centimetri di già. Va bene, senti, quello che al momento era non stop, che cos'è, uno dei tanti sketch? No, era dopo, era dunque Blackout, che se boom, un po' rimosso il titolo perché mi fecero soffrire in quella, sì, abbiamo toccato in quella trasmissione il nervo. Ma erano brutti gli autori, erano proprio, si vedeva in faccia che... Al nostro neri. C'era Magalli come autore, uno degli autori. Non so, che non mi ricordo. Giancarlo era uno che girava però per i locali indicando il verdone della situazione, la smorfia. Era un talent scout, sì, me lo ricordo. A parte di Magalli non Giancarlo nasce come autore soprattutto. Sì, questo, poi questo la Buonaccorti si sentì male, lui era autore di Pronto chi gioca, dove io la premiata abbiamo debuttato televisivamente nell'85. Sì, sì, sì. E lì divenne conduttore. Insomma, sì. Poi sì, abbiamo fatto il suo percorso. Senti, poi c'è stato l'esordio su grande schermo nell'82. Sì. Col film Ad Ovest di Paperino. Lì era abbastanza facile. Come succede? Beh, sì. Beh, nel senso era che... naturalmente vi capitava il cinema. Insomma, no. È capitato a tutti i gruppi? Sì, ci fu, diciamo, la generazione di mezzo che non era all'altezza della generazione precedente, dei Sordi, Manfredi, Tognazzi. Vabbè, è stato un ricambio generazionale, però esatto. Degno, sì. Diverso. Diciamo che noi abbiamo avuto la fortuna di essere la terza ondata. Sì. E quindi in pratica tutti i produttori di cinema si precipitarono su di noi, soprattutto dopo che Troisi aveva fatto Ricomincia da tre, Verdone un sacco bello, quindi tutti quelli che avevano fatto Non Stop furono in qualche modo precettati dal cinema. Sì, anche già I Gatti furono tormentone di Jerry Galà, eccetera. E noi partimmo con questa avventura un po' surreale, diciamo così, e d'altra parte quella era la nostra cifra. La chiave vostra era quella lì, voi eravate più difficili degli altri. Al sud eravamo teatro sperimentale, dal centro in su cabaret. Ma era così. No, ma è vero, anche per me, che io quando uscì la trasmissione era dunque fine anni 70, no? 77, la prima 77, l'edizione nostra 78. Fine liceo, inizio ISEF, si capiva dal corpo che mi cambiava, insomma, ero 18enne, 19enne. Di un bimbo. Ma va bene, infatti tu sei del 50, di 59. Che vuoi da me? Che mica colpa mia. C'ha l'età di mia moglie. Esatto. Adorabile. Però posso dirlo, chi è tua moglie? Chiaro. È una cosa molto bella, Chiara Grazzini, la conosco da sempre. È il mio regista, la mia coautrice. Donna meravigliosa che noi conosciamo, io e Roberto Ciufri, da sempre, che ha fatto il liceo con noi. So, porta ancora le ferite di quei tempi. Sì, perché noi abbiamo tentato in tutti i modi, anche coercizzando, cioè no, ma veramente in tutti i modi. Ma se può parlare di vita capito, privata, la donna bellissima, interessante, intelligente, brillante, ti innamori al liceo, però certo, sai che le donne al liceo vanno sempre, guardano soltanto più in alto le persone più grandi. Con l'ipnosi forse. Con l'ipnosi, no, perché è più alto e più grande. Come si fa a fermarlo? No, volevo salutarla, Chiara, perché è una grandissima professionista. Tanti a Copenaghen, non ti sente. Vabbè, fa niente, però tu sai che io parlo bene. Glielo dirò. È brava. È un straordinario uomo. No, ma anche perché è la tua veramente la compagna artistica e non solo. Insomma. Mi piace come ha preso l'andazzo. Senti un po', dove ti senti più a tuo agio in tutte queste cose che fai pure tu? A questo punto ti metto pure il rockstar, la rockstar in centro. No, dai, a fare le cose sensate. Diciamo, ho un percorso mio di scrittura, di sperimentazione sui linguaggi comici, sembra una parolona ma è vero. No, così da sempre. E vado avanti, sono con un po' di coraggio e sperando che questa cosa paghi, ma non è facile perché appunto è un periodo in cui il coraggio, ce n'è poco di coraggio, soprattutto negli operatori culturali, per cui insomma, però non si demorde. Operatori culturali è una parola grossa anche in questo periodo. Beh, io per dire tutti, per dire direttori di teatri, per dire quelli che qualche, insomma, quelli lì, quell'esercito di persone lì. Sono tempi impauriti in tutti i sensi. No, io quando mi sono stato a teatro poco tempo fa, ho visto il cartellone Gabriel Garco, lì mi sono spaventato. No. Tu non rispondi, hai la facoltà di non rispondere, perché tu sei mio ospite, sono cose che dico io dalla mia bocca. Invece ti posso dire una cosa. Non lo so, ti sto prendendo in giro. Stato ti sto prendendo in giro perché so che ne hai parlato bene che ne hai fatto bene. No, perché tante volte non si capisce dove sta l'intelligenza. Lo so. E invece, guarda caso. No, no, ma infatti te l'ho detto vera proprio. Sorpresa. Sì, no, ma te l'ho detto perché lo conosci perfettamente, sì, quello spettacolo, davvero, insomma. Abbastanza, sì. Beh, che dici? E poi il grande Ugo Pagliai, che è un attore così difficile da trovare, è come cercare un Ugo in un, sì, Pagliai, lo sai. Oddio, se può dare uno stacchetto musicale, no? Che no. No, okay. No, tu hai avuto anche questo coraggio, perché, sì, di coraggio si tratta, sì, infatti la domanda provocazione, esatto, a fare questo contrasto sacro e profano insieme. Non solo, ma l'idea è sua. È stata di Gabriel che ha scelto un personaggio che è perfetto, sì, per perché lui. L'attore televisivo famoso che, sì, presta, viene imprestato al teatro per cercare di riportare il successo nel teatro, che gli non lo può fare la notte perché no, non c'ha il talento per, esatto, fare l'attore di teatro, e ci vuole una grande autoironia profonda per fare una cosa del genere. No, ma lui è delizioso, sì, da questo punto di vista, ma è anche lo è ancora di più come persona. Sì, sì, l'ho conosciuto un paio di volte, ovviamente, molto delicato, molto, sì, bello, no? Quando l'intelligenza giova a chi gli sta intorno. Però anche a noi la bellezza ci ha dato quello che ci ha dato, Alessandro. Cioè noi, io devo dire grazie al falso. Sì, stiamo sfiorendo con eleganza. Sì, esatto, è come dici, come Buzz Lightyear, stiamo volando, no, stiamo precipitando con stile, che è diverso. È vero. Che è bellissimo. È vero, è vero. Senti, a questo punto c'era una domanda bella, ma siamo arrivati quasi alla fine, però mi piace sapere cosa ha rappresentato per te Carlo Monni, un grande attore, poeta che ci ha lasciato 4 anni fa. È anche una grande incavolatura, perché insomma, sì, perché mamma mia, si è sprecato tanto, però la vita è sua, ha fatto bene a fare quello che ha fatto. Comunque, ecco, avrebbe meritato molto, ma molto di più. Ci sono dei talenti in Toscana, lui è uno di questi, l'altro, vabbè, lui era uno di questi, che in qualche modo avrebbero meritato molto di più. Però, certo, ti ripeto, ognuno sceglie il disordine che vuole nell'ordine delle cose, e quindi ha fatto bene a fare quello che ha fatto. Che bello, vorrei averlo tutto domenica con me, no, dai, come Dante e Virgilio, mi spieghi? Io svengo ogni tanto, per come Dante. Sì, siamo quei 3 o 4 che, ma no, meno scrivono. Ormai è meno. Ma sì, che pensate? Che... Va bene, io un altro quarto d'ora me lo regali, un altro quarto d'ora. Siamo alle 3. Non mi costa nulla. No, è gratuito. Va bene? Sì, certo. Allora, Mago, vuoi fare una magia mentre andiamo in pubblicità? Aiuto! Ma proviamo? E che vuoi fare? Come va, fai? Bene, dai. Ma proviamo. Per radio dopo dobbiamo prepararla. Non puoi. Vuoi farla lui mentre siamo in pubblicità. Facciamo così. Già va bene, l'hai già stupito prima, Gabriele. Va bene. Promesso. Tra pochissimo, Voi sanatomi con Alessandro Benvenuti. Sanatomi. Eccoci, bentornati, signori miei, quasi le 15 in punto di domenica 30 aprile. Al mio fianco ancora per un quarto d'ora Alessandro Benvenuti. Grazie, il quarto, ciao, d'ora che poi ti legherà al passaggio al teatro Cometa, sì, con questo, mi parli questo spettacolo, anche se è l'ultima cosa, no, l'ultima cosa di oggi prima di salutarti, sì, però chi è di scena so che è uno spettacolo particolare. Quando si parlava del coraggio, infatti, esatto, è quello, cioè, sono molto contento di averlo fatto, ma è uno spettacolo che mi pone veramente dei dubbi e delle riflessioni serie per il futuro. No, lo dico, poi sei autore e regista, per, sì, cui, ma lo dico perché quando ti dico c'è questa disparità di cose tra chi lo vede e chi lo dovrebbe in qualche modo appoggiare, comprare, programmare. Da un lato, voglio dire, c'è la grande sorpresa della gente che dice: che cosa strana, che cosa particolare, che bella sorpresa, ecco, che hai mai fatto. E dall'altra parte c'è il fatto che una sorpresa oggi è un qualcosa che, anziché dare in più, sì, ti dà dei sospetti, cioè ti dice: oddio, ma me la potrei permettere io nel mio teatro, nella mia, cioè, capisci? Ah, per, certo, cui, crea un problema poi logistico, problema, non indifferente, diciamo così. E questa cosa, siccome io tutta la vita lavoro, cioè non è Natale in casa Benvenuti, che è stata un'altra sorpresa, ma è una sorpresa, se vuoi, ma anche io, quella era una sorpresa. Ma quando mi dicono: tu che teatro fai? Dico: io tento di fare il teatro della sorpresa, cioè di, certo, fare una bella sorpresa alla gente, che non si deve aspettare per forza quello, qualunque cosa, purché appunto crei sorpresa. Ecco, questa è una cosa che crea sorpresa. Sono contento, poi, tra l'altro, perché lavoro con 2 attori giovani, ecco, questo Paolo chiedere. Cioni e Maria Vittoria Argenti, che peraltro, sì, ti saluta perché, grazie, è passata, conosco, sì, anche dalla tua accademia. Quindi, insomma, ecco, è già questo, già l'idea di dar lavoro a 2 giovani attori bravissimi. Questa è una cosa che io amo profondamente. E io pure, avendo 3 figli e 10 nipoti, ovviamente sì, penso ai pieno. Giovani. No, sì, voglio, sì, dire, è vero, se ce la facciamo noi a dare una mano. Se no non c'è ricambio generazionale, esatto, mai. Infatti la mia accademia era gratuita per anni, lo è stata, sempre, deve essere così. Ed è uno come te, cioè, da, non so, diventi lo specchio, diventi dove loro saranno. Diciamo, sì, qualcuno, beh, l'esempio lo deve dare. Esatto, esatto. Vabbè, io cerco di dare il mio con tutti i miei limiti, però ecco, sono contento di averlo scritto, perché è uno spettacolo estremamente coraggioso, perché è una forma di comicità molto particolare. E la cosa bella è che comunque viene preso molto bene. Vabbè, ma io credo che ogni cosa che tu hai fatto è stata una cosa particolare, che poi ha funzionato, perché tu lo sai meglio di me, il successo poi c'ha tanti padri, l'insuccesso è orfano. E anche quando presentavi, anche, ripeto, quello spettacolo che è straordinario, Benvenuti in Casa Gori, Natale, si dice Natale in Casa Pompeo, ma è uguale, insomma, che poi era per Natale. Sì, esatto, che poi comunque è un complimento implicito, perché sì, Natale comunque, in Casa Cupiello, esatto, viene paragonato a quello. Vabbè, poi, ma quello tu facevi tutto. Sì. Ho fatto la trilogia insieme a Pochifi, sì, insomma, un Natale, all'inizio dicevano, ma può fare tutto da solo, ma che significa? Magari poi lo vedono per i costi. No, vabbè, ma certe cose geniali nascono anche perché c'è poco tempo, pochi soldi, nascono idee geniali. Esatto. E quello era nato così, insomma, fu così, l'avevo pensato per 10 attori, invece poi lo lessi al teatro di Rifredi di Firenze, facendo tutte le voci, sì, hai capito che funzionava. E capì che era una cosa particolare. Un gioco di luci fantastico, tutto. Sono 30 anni, lo porto in tournée. Vabbè, sono quelle cose che poi bisogna fare sempre delle cose per le quali poi la gente ti riconosce. Tu ne hai fatte tante. Boh, insomma, uno si prova. Sei saltato. Il nostro mestiere. Sì, ma non sai, poi uno si accontenta, no? Anche come i miei colleghi attori, i doppiatori, si accontentano, poi rimangono in sala 9 ore al giorno, dice, a me chi me lo fa fare teatro, chi me lo fa fare di fare qualsiasi altra cosa. E invece no, diciamo, è bello, ho seminato, per cui qualche cosina raccolgo. Ma poi hai fatto pure il conduttore, vuole rubare il mestiere, ragazzi, sì, no, varietà. La fabbrica dei sogni fa una roba, ma è bella bellissima. La fabbrica dei sogni, poi c'è una bella gara di artisti veri, comici, bella, eccetera, no? Quello, come ti sei trovato lì? Benissimo, cioè, ma preso per un democristiano perché ero stato intortato da Ragozzini, invece non lo ero, per grande cui ebbi tutto lo studio di Milano 2 contro, perché erano tutti di sinistra, pensavano che io fossi democristiano, cambia tutto, scanaccio, zitto fino alla fine. Fu molto dura, devo dire, ma dai, fu durissima, però una bella battaglia. Io mi presentavo sempre vestito elegantissimo, cioè con la pochette, certo, il doppio petto, perché ero democristiano, esatto, mi presentavo in una certa maniera andreottiano. No, senti, il tormentore di New Zealand qual è? Era. New Zealand era un saluto. Il saluto New Zealand. Esatto. Boh, non lo so, mi era venuto così. Questo un po' surreale, no, è surreale che tu hai. I Monty Python li ami a proposito? Sì, beh, abbastanza, diciamo. No, questa era proprio una domanda personale mia. Sì. No, Dio mio, come si fa? No, non è male. Anche loro sono particolari, particolari veri, però bellissimi. Io poi adoro l'umorismo all'inglese, per cui insomma. No, ma fa ridere, c'è il senso della vita che io ogni tanto vi do dei piccoli consigli, sì, il senso di tutto, un po' tutto. Senti, c'era una cosa bellissima, non abbiamo nient'altro, signor Meconi, del dottore Benvenuti. Meconi. C'è la sigla dei Giancattivi? Me la fai? Se... dai, fammela sentire, vai. Che qui ora ancora in casa dei genitori, mi dice, bella quella canzone che ti ha scritto, quella che la vanno argentina della Colomba Bianca Vola, perché c'era Vola, Colomba Bianca Vola, è riferita alla partenza di una mia zia, che andò in Argentina, io ero piccolino, poi sono tornati tutti cagarrao, sai, sono tornati tutti, poi è bello come suono, sono tornati tutti cagarrao, si perdona questo italiano, insomma, un po', hai ragione, cagarrao, conduttore, doppiatore, eccetera, cagarrao non ci stava. Vabbè. No, insomma, comunque era legata al ricordo della partenza di questa mia zia per Buenos Aires, per l'Argentina, e quindi io ero piccolino e mi è sempre rimasto qui, quindi un giorno scrissi sta canzone e la mamma che dormiva mentre io in salotto facevo strimpellavo si affacciò alla porta, è bella questa canzone, t'ha scritto, mamma dormi. lascia stare. Io pure questa parlata toscana mi piace molto, che mi ricorda mia mamma, che lei livornese di nascita, Prato, Vagliano e Vernio, i miei nonni, da parte non sapevo questa cosa, c'ho delle origini un po' mischiate, perché c'ho mamma, la parte di mamma, i nonni Prato, Vagliano, Vernio, Livorno, invece papà Reggio Calabria, per cui penso è uscito fuori sto mischiume. Vabbè, dai, il sangue quando si mescola fa buono, dicono in Toscana, esatto, qui continua a mandarmi l'anduia, io non la mangio, ma buona. lo so, sai, però... che io sono dell'Accademia del Peperoncino, io sono accademico. C'è un accademico Diamante, del Peperoncino? Ma Pino, me la meglio di te. Allora sì, ti do il regalo a, solamente, cioè, mia moglie mangia solo peperoncino. La posso fargli scrivere come anche la Virna Lisi. Ma che c'è? Fate, assaggiate il peperoncino. Che come... facciamo della festa incredibile. Ma ci abbiamo 100+ cose, come dire, punti vendita in tutta Italia. No, ma non lo sapevo. Enzo Monaco, giornalista, sì, presidente. Beh, non guadagna una lira, spende tutti i soldi della in pensione da giornalismo, sì, per mandare avanti sta bellissima. Ma beh, parliamone festa. Allora. C'è un sito, tu la conosci? Io faccio parte. Accademia del Peperoncino. No, sì, assolutamente. L'Accademia del Peperoncino Marco Gabriele. Sì, Gentile. Perché il nostro comune amico Cino Tortorella, che purtroppo sì, ha fatto una magia inspiegabile, sì, è sparito, però rimane nei nostri cuori. Era un grande appassionato di peperoncino. Lui girava con il kit che Monaco regala, sì, bravo, a tutti, esatto, a tutti i soci. Ragazzi, quindi, beh, questo è un mondo, mi si apre un mondo. Le penne piccanti. Sei libero a giugno? No, più o meno. Quando a settembre. Settembre adesso, sì, perché Nella prima decade di settembre a Diamante c'è la fiera del peperoncino, e certo. La fiera del peperoncino. Sono ospite fisso, diciamo, certo. Non sempre posso andare, ma quando posso vado, perché sono accademico, sono stato il primo premiato. No, al decennale. Non sei inalberato fino adesso, no, per parlare, scusa, di teatro, di televisione, di cinema, ho parlato di peperoncino. Dai. Sai che cosa ha fatto per il peperoncino il grande mago Silvan a Camaiore, grazie a Monaco? Ha fatto un viaggio da Roma a Camaiore per essere pesato su una bilancia pubblicamente, e gli è stato dato il corrispettivo del suo peso in chili. Zitto che ci doveva andare io quest'anno e non c'avevo, e c'avevo un impegno. Sì, ma andava sotto restavano per bancarotta, ma lei è sempre a quella stazza lì, sì, sì, porti, certo, il monovolume, mi dissero, perché per riempire perché ti avrebbero dato in corrispettivo, esatto, il peperoncino. Quale peperoncino? No, di tutto, tutti, tutti i peperoncini del mondo, ragazzi, scherziamo, ci sono tanti, mille come prodotti, i vini, che hanno, come i vini, ma stiamo scherzando, no, per amor di Dio, non volevo. Tu non sapevi questa cosa dell'Accademia del Peperoncino? Ti chiedo scusa, ammetto questa ignoranza di fronte a centinaia di migliaia di persone. All'anduia fanno, è una cosa poi capita. No, sì, ma capirai, io non ti ho visto mai, adesso ti cominceranno a chiamare la Masterchef. Tu l'hai visto il mio come due gocce d'acqua, sì. Gianni Pellegrino, che è il re, esatto, del peperoncino calabrese, e lui è l'animatore di tutte le feste che hanno a che fare col peperoncino. Il peperoncino poi è buono, usato bene, scherzando, è una cosa, no, che aiuta anche spezia democratica, perché tutti la possano avere, basta piantarla, non è come il pepe che costa. Quindi peperoncino è la spezia democratica. Pepe costa, vedi, queste altre cose, vedi, io dico, pepe costa e peperoncino invece, no, tutte le tipologie di terrazza. Tutte le tipologie di peperoncino. Io ho un amico, il professore Enzo Biasi di Pisa, che ha 1450+ specie di peperoncino. No, vabbè, se siete in ascolto trasmissioni gastronomiche, avete un ospite inaspettato. Certo. Ma cioè, voi toccate, possiamo parlare di Shakespeare, lui parla come me, quello e quell'altro, eccetera. Che me ne frega. È morto il peperoncino. Sì, vivo di fronte a noi, ci allieta. Per cui tu sei quello della pasta asciutta in seconda serata a casa, vai, olio e peperoncino. No, adesso non cominciamo, con moderazione, però vabbè. Ci sono è tutto da scoprire il mondo del peperoncino, sono un sacco di assaggiato da solo, no certo, di tutti i tipi. Vabbè, dai, facciamo un'altra trasmissione, questo è bellissimo, non è più Voice Anatomy, è Peperoncino Academy. Cioè, non riesco, però c'è una parte che è il film di Verdone, dai, c'è quella parte, sì, quella. Ah, sì. Mauro Meconi, che sei di là, che tu hai amato profondamente. Profondamente anch'io. No, dai, per favore. Voleva farti fare. Mauro. Era il personaggio, era scritto così? No. No, io avevo i ferretti dell'ortodonzia quando Carlo Verdone mi disse: senti, vorrei affidarti. Guarda, Carlo, io sto messo così, avevo gli elasticini. Stavo sotto 6 mesi di ortodonzia, perché dovevo spostare leggermente un dente, quindi se mi vuoi io sono così, perfetto, mi disse. E allora la sera prima, Chiara, mia moglie, non sapevo come farlo sto personaggio, e la sera prima della prima posa lei mi parlò di un suo parente che aveva appunto la voce in questo modo, che aveva la manina così un po' appiccionata, sì, qui sul ventre, e quindi io praticamente prima di coricare armi, beccai il personaggio al volo suggeritomi da mia moglie. Lo vedi, torni al mio discorso prima di sottolineare l'importanza di Chiara Gazzini. Io l'ho conosciuto da Canale 5, è stata l'unica aiuto regista che mi ha resistito su 10 che massacrai. Ma quello è un lavoro poi. L'aiuto regista non è uno che porta il caffè, l'aiuto regista è l'assistente. Si può dire perché noi siamo qui, è la radio di Cruciani anche. Ah beh, allora siamo sdoganati. Siamo sdoganati. No, ma io però non riesco. No, in televisione. Stickers, esatto, è vero, non sono io. È solo Cruciani. Non è, noi possiamo farlo. 3-1 oggi, voi. 3-1 ma zitto. Dove trai le ispirazioni? Dove trai le ispirazioni delle tue storie, Alessandro? Stavo cercando una domanda intelligente. Dalla vita. Esatto, dalla vita in su. Davide, no, a me piace il fatto che tu sei un musicista. La prossima volta mi devi portare un pezzo, qualche pezzo tuo. Ma che ne so, ma senti, se no. Beh, ce l'hai, ma io non sono, usciti. Vabbè, dai, sono usciti, ma sono rientrati molto alla spesa. Vabbè, ma qui si può fare, questa è una trasmissione che ce lo permette. Ma figurati, te le do. Me lo prometti? Ce lo prometto. E devi tornare. Ma tu mi chiami, oggi ero libero, sono venuto. Va bene, adesso te ne torni a teatro. Allora, c'ho un minuto e mezzo per salutarti. Un minuto e mezzo siamo anche lunghissimi. Sono saluti bellissimi. Ma tu, ciao. No, quello no. A proposito, i diritti del Barlume. Sì, ora si riparte. Bello. Ora si riparte. Con il bravo Timi. Sì. Me lo saluti, per favore. Come no? Lo dico per radio. No, a voglia. Che noi... Filippone. Filippone, sì, tartaglione meraviglioso, sì, perché noi abbiamo doppiato insieme l'era glaciale, lui. È un doppiatore prestato al doppiaggio, ovviamente. Poi c'è una bella voce. No, è strepitoso, sì. Ma è una persona. Ecco, parlavamo prima della sorpresa. Cioè, Filippo per me è stato. Matto scatenato. Un attore come sorpresa, no, ma come uomo straordinario. Sì. Straordinario, ma non sapevo che tartagliasse così tanto. Ne parlo tranquillamente, no, che lui non lo nasconde. Tu puoi immaginare la conferenza stampa dell'era glaciale, dove ci hanno intervistato a me, a Bisio e a lui. No, lui ha cominciato e ha detto: allora lei è la prima volta il doppiaggio. Ho fatto scusami tanto, fammo che te doppio io, dimmi quello che vuoi dire, il concetto, perché lui quando si emoziona come Vinicio Marchioni e poi in scena sono pazzeschi, no? Poi ci scherza sempre. Sì, no, mi permetto di dirlo apertamente, sì, perché non lo nasconde. No, straordinario, sì. Per cui anche lei, quello è stato un altro bel successo, un'altra cosa particolare, un giallo. Sì. No, su Sky. È una cosa molto fortunata. Beh, là si lavora molto bene, molto con Sky. Teatrale poi. Sì, Italia anni 60. Si respira, esatto, un po' quell'atmosfera dell'Italia di una volta. Il posto è bellissimo, Marciana Marina, non c'è speculazione edilizia, insomma, tanta bella roba. Che farai da grande? Io? Io vorrei andare verso il genio, ma non so se no, davvero studierò. È come Woody Allen. Mi sembri Dio, dai. Beh, qualcuno dovrò pure ispirarmi, cavolo. No, dai. Penso di poter continui continuare a ricercare. A studiare. Non ti siedi mai, continui a ricercare. Con tanto coraggio, perché insomma, appunto. Sa fare già con Ciuffoli adesso, però questo lo sai, certo, sei cosciente. Penso il coraggio che ho. Esatto, questo è veramente. Che, vabbè. No, esatto. sì, ma è delizioso, insomma, anche beh, lui. Sì, non dirlo a me. Poi c'è mia moglie che lo conosce molto bene. Lo so, te l'ho detto, sta attento. Mi dice: attenta, adesso c'è un momento di vuoto, ora sì. Ora si astrae, guarda che non è convinto, glielo devi ripetere. Il doppiaggio non lo farà mai, no. Perché quando lo portai la prima volta o vede il film o senta la cuffia o legge il copione, non riesce a fare tre cose insieme. Oddio, perché è un semplice. E poi commenta, dice: ma perché c'è la solista scena? Ma poi pensa a provare. No, è così. E lui mi ha detto: doppierei i miei film, Pino, e non lo fece più. Va bene, no, non è il tuo caso, straordinario. Brava persona. No, la prima ditta tornerà insieme, poi lo dirò con loro ospite. Caro benvenuti, buon viaggio. Grazie. Fino al Teatro La Commedia con chi è di scena. Sì. In bocca al lupo, merda come si dice. Sì. Grazie di essere venuto, questi sono i convenevoli. È stato un piacere. Ti voglio bene perché sai che quanto te ne voglio, ma lo sanno tutti perché sei una persona meravigliosa. Quello che esce fuori, quello che la gente vede di te è realmente quello. Va bene. No? Sì, no, uguale. Cioè, non lo so, mi metterei in imbarazzo. Esatto, non devi rispondere tutte e sei. Ciao, Alessandro, benvenuti, ci saluta. Resta il Mago Gentile, ma è arrivata Ilaria Latini, grandissima attrice, doppiatrice. Con lei faremo un percorso bellissimo. Allora, a tra pochissimo, Voice Anatomy. Grazie, Alessandro. A tra pè. Primo maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Ma in questo giorno sono ancora troppi quelli che il lavoro non ce l'hanno o addirittura hanno smesso di cercarlo. Cosa chiedere alle istituzioni e alle parti sociali? Com'è possibile conciliare le tutele di un lavoro duraturo e la flessibilità produttiva che la globalizzazione chiede alle imprese? Radio 24 affronta questi temi coinvolgendo esperti, rappresentanti di istituzioni, imprese e sindacati. Speciale primo maggio, come crisi e globalizzazione hanno cambiato il mondo del lavoro. con Vincenzo Miglietta alle 8:15 su Radio 24. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, come dico sempre, grazie di volerci così bene ogni domenica. Rimango sempre molto stupito, come sempre io ricomincio da capo ogni giorno, e il successo che state decretando a questa trasmissione devo dire anche meritato, perché è bella, perché ti fa compagnia, perché aiuta magari un percorso nuovo attraverso la voce, sì, conoscere gli attori, i doppiatori, i cantanti, ma i vocologi, ma gli ipnotisti, ma come in questo caso i maghi. Questo è un primo esperimento che io adoro, il Mago Gentile. Insomma, Gabriele fa tanta televisione, con lui abbiamo fatto lo Zecchino d'Oro, siamo incontrati in varie trasmissioni, e oggi faremo Ilaria, il primo esperimento di magia per radio. Dai. Che sembrano le prime lezioni di mimo per radio, far ridere. Bello. Nel senso, però stanno telefonando, il numero è 800 24 00 24, e potete prenotarvi, sono rimasti un paio di posti a disposizione per giocare con noi. Vi ripeto, serve un abiro, serve un pezzo di carta, una chiave, una moneta. Una moneta e magari anche un anello. Un anello. Potrebbe essere l'anello interessante. È stata la tua aggiunta. E vicino a me c'è Ilaria Latini. Oh, Ilaria Latini nasce il 21 ottobre, basta. Esatto, non andiamo oltre. Amore mio, se vanno su Genna, su Wikipedia, ma sta ovunque, l'incipedia del doppiaggio, ma che poi nasconde? Sta ovunque, ma no. Dove va? Sei del 72, ma dillo, esatto. Sei bella come il sole. Doppiatrice, attrice, sei nota tantissimo, hai prestato la voce pure a mia zia, cioè a chiunque. Cioè, mia sì, no, vabbè, cioè, manco io, forse non hai doppiato me. Però, forse. Poi insomma sei figlia del grandissimo Franco Latini, sì. Cioè, lui era tutto, tutto, sì. Tutto il divertimento, sì, Paperino, sì, sì. Tom e Jerry, cioè qualsiasi cosa, Stanlio. Sì, sì, Stanlio. Ci sentiamo un attimo, papà? Ah, ma ce l'hai? Certo, sentiamo Stallone, no? Un attimo, sì. Stallone e Oliver Lari. Lui Stanlio era grande Franco Latini, ma pure Paperino era, era tutti. Sentiamo un attimo un momento di papà. Non riesce a capire la situazione? Tu non devi ordinare niente. Ma tu seguiti a chiedermelo. Faccio solo la commedia per le ragazze. Oh. Noi abbiamo solo 15 cents. Proprio così. Andiamo adesso. Adesso ci siamo. Allora, bibite, bibite e bibite. Bello. Stupendo. Sì, che uno, poi anche è stato Alberto Sordi la voce di Olio. Sì, all'inizio. Esatto. Poi Carlo, sì. Crocco, insomma, si sono alternati, sì, un po' di nomi. Sì, un po' di scambi, sì. Però ecco, questo nell'immaginario collettivo, poi per noi parlavano italiano, cioè una volta il doppiaggio non ci si pensava. Sì. All'inizio il doppiaggio era magia, cioè quello parla così, John Wayne c'ha quella voce, non è che è doppiato. Sì, sì. Cioè, Gary Grant faceva pubblicità di Kraft, cose buone dal mondo, no? Faceva il quartiere De Angelis. Sì, sì. Non sì, ci si pensava. Sì, è vero, è vero. Loro, molte, io mi ricordo quando ero bambina, quando a scuola, ora con le privacy non chiedono quasi più che lavoro fanno mamma e papà, ma all'epoca era un classico. Ah, non lo primo, chiedono più? Lo chiedono poco, ci arrivano per altre strade perché ci sono tutta, certo, una serie di leggi, allora, devono stare attenti a tutto quello che fanno. Sì, vabbè. Ma mi ricordo quando ero piccola, era un classico, primo giorno di scuola, che lavoro fanno mamma e papà. E quando io dicevo il doppiatore, capirai, le persone mi venivano a chiedere se poteva copiare un film, se mio padre poteva copiargli un film, perché per loro il doppiatore era il pirata. Sdoppiava i film, esatto, papà. E lo arrestarono poi, no? Papà fece gli ultimi giorni, esatto, proprio in gatta. Buia, non, no, sapevano, che non si ponevano questa domanda, come dici tu, chi, sì, parlava era lui, era originale, punto, sì. Mi ricordo che Claudio Amendola mi disse questa cosa, che è rimasta come leggenda metropolitana, ma poi è vera, me l'ha confermata Claudio, che quando c'è la pubblicità di un noto detersivo, ed era Ferruccio Amendola che la faceva, sì, con la voce di se stesso, sì. Per cui qualcuno disse a Claudio, disse, ma poi ammazza tuo padre, doppia pure sto mostro, e quello gli ha detto, veramente quello è mio padre. e la raccontò in un Costanzo Show perché era una leggenda metropolitana, ma poi era realtà, ma insomma, poi se realtà o no fa ride comunque. È vero. Eppure Claudio dice a me quando te strilla Silvestre Stallone vanno a dormire presto, non ci credi? C'è paura, comunque succede qualcosa se Al Capone te strilla dentro casa. Lavoro particolare. È un lavoro particolare, sì. Poi il corpo racconta tutt'altro. Invece no, tu sei, assomigli ai tuoi personaggi. Dai, ci stai. Tu sei in pensione? Io quasi. Tu hai fatto il tuo primo doppiaggio a 4 anni? Io l'ho fatto a 4 anni, ma siccome all'epoca non c'era questa consapevolezza, il mio contributo è a 6, quindi quasi. Ma come manca niente? E lo sai che ci sono tanti colleghi che proprio per questa mancata consapevolezza all'epoca magari hanno iniziato molti nomi che tu conosci prestissimi e gliel'hanno versati dopo i contributi. Ma tu vai in pensione? Ma sei giovanissimo, io sei bellissimo. Ma che dove vai? Ma te voglio venire a casa a fare la calzetta a te, bella come il sole, brillante. Ma scherzi, che film era quando hai cominciato? Allora, io ho cominciato come molti altri colleghi, c'era oltre mia sorella, Laura. Adesso ricordiamo. Sì, le dedichiamo un bello spazio. Ma certo. E poi c'era Massimiliano Alto, per esempio, insieme a me, che era leggermente più piccolo basso di me. Sì, e poi ti racconterò anche questo aneddoto. E abbiamo iniziato con una serie che si chiamava Gli Apriti Sesamo. Ah, gli Open Sesamo. Te li ricordi? No, certo. Barrio tipo Sesamo, Open tipo Sesamo, brava. Tipo i Muppets, però per bambini più piccoli, dove c'erano tutti i nostri genitori che facevano i pupazzi, i protagonisti. Certo. E poi c'erano questi bambini che arrivavano all'improvviso e facevano delle cose proprio basilari, contavano, certo, salutavano, piccole cose. E quindi, diciamo, tutti i figli dei doppiatori. Perché, ma questo poi spieghiamolo, perché avviene questo? Perché con facilità il figlio di un doppiatore ha una buona dizione. L'abbiamo risolta questa. Dopo 2 anni che facciamo questa trasmissione abbiamo risolto i problemi del dubbio, del fatto che ci siano delle caste che proibiscono l'entrata. No, assolutamente no, è che figlio di un notaio, amore mio, è figlio dell'ingegnere, farà forse l'ingegnere, il medico farà il medico, non so se è figlio del mago farà il mago o sparirà prima dei 18 anni, però è possibile. Dai, respiri quell'aria. Assolutamente. Respiri quell'aria e poi nel caso nostro c'è questo fatto dell'addizione, perché molto spesso anche i nostri figli o altri bambini provano a portare i loro amichetti che però al microfono, il microfono fa passare tutto. Certo. Quello che non si percepisce normalmente al microfono arriva. Inevitabilmente trovare un bambino così piccolo con una dizione pulita è difficile. Certo. Invece infatti, mio figlio sta altrano che ci avrà 3 anni, io lo porterò in sala in braccio perché voglio Alessandro che faccia questo mestiere. Ma questo è bello, sai, Pino? Mestiere bellissimo. Sì. Non lo voglio rinchiudere in sala 9 ore al giorno. Voglio che ami questo mestiere perché è un mestiere meritocratico. Sì. Dove tutta la gente è brava e tu puoi andare a letto con chi te pare, ma il giorno dopo non gli fai far turno perché non te lo appoggia nessuno. Sì, è vero. Allora viva Dio. E poi sai, io racconto sempre quando molti mi chiedono, anche i miei figli fanno doppiaggio, quindi molte a volte mi chiedono il mio parere in merito. Riccardo Emanuele Suarez, poi c'è la piccola Sofia che però è ancora piccolina. Non l'hai saputo di Sofia? C'ha 6 anni. È sempre di Suarez. Sempre Suarez. E lei sta il tuo amico Suarez. E c'è Diego che saluto tantissimo. Diego è un uomo bellissimo, devo dire. Grazie. Mi interessa meno, mi interessi più tu come idea. Però insomma, bisogna riconoscere che c'ha il fascino latino vero. Sì. E poi c'ha quella parlata. Sei una delle prime persone che ha conosciuto qui, ti ricordi? Sì. Ma perché io in Sud America sono numero uno. Io la Garra e chi c'è lì forte come me alla Garra? Non c'è nessuno, no? Direi nessun altro. No, basta. Lui è stato molto carino perché quando mi veniva trovare qui, andavamo alle feste e chiacchierava tutto il tempo con Pino perché si erano proprio presi. Sì. Io gli dicevo: guarda che Pino, dico, non hai mai visto niente, ma lui non viveva in Italia, quindi l'ha visto, cioè prima l'ha conosciuto e ci è diventato amico e dopo ha cominciato più bella a vedere in TV. Quando non mi riconoscono sono ancora più contento perché devo conquistarmi una persona per quello che valgo in quel momento. Ma infatti è stata proprio un'intesa naturale. Ma sai, una persona carina, brillante, intelligente, magari esatto. Lui è delizioso, Diego. Ad ogni modo, tornando a quello che dicevamo, i bambini quando possono iniziare un mestiere, qualunque esso sia, io sono, diciamo, a favore di queste botteghe che c'erano nell'antichità dove sono nati i grandi maestri pittori, no? Certo. Perché comunque il bambino aveva sin da piccolo quella possibilità, si era portato per quella cosa. Quella dimensione nella società di oggi, che ha un rispetto ovviamente dei minori, ti permette di imparare innanzitutto, che secondo me è il regalo più bello che ti fa questo lavoro, di imparare ad avere rapporti con persone di tutte le età e di tutte le tipologie. Cioè, i miei migliori amici quando io ero piccolo era magari un settantenne e un bambino che aveva 10 anni meno di me. Perché non ti poni il problema dell'età nel certo. nostro lavoro. Mentre questa società è tutta inquadrata d'età, le classi, le squadre di sport. Però se parli così devi andare da Minoli e dagli altri più intelligenti di me in questa trasmissione. Allora, scusa, ho sbagliato, vado. No, con me devi essere grazie, più semplice. Bino, ciao. Scusami, tu sai, io capisco tanto l'articolo, l'infinito, non ho vado... Ho sbagliato trasmissione, scusa. Esatto, sei stata invitata, io non avevo invitato un'altra Latini. No, ci sei tu, tesoro mio. No, è bellissimo, bene. È bello sentirti, sai, in questa maniera. Ma io voglio sentirti, per esempio, su Amy Adams, su Come d'Incanto, un film della Disney strepitoso. Ascoltiamo la nostra bella Ilaria Latini. Ho bisogno del tuo aiuto, Morgan. Devo andare al ballo e non so bene cosa fare o che cosa indossare. E non so neanche dove trovare una fata turchina così all'ultimo momento. Io ho qualcosa di meglio di una fata turchina. Papà dice che è solo per le emergenze. Questa è senz'altro un'emergenza. Carina. Film bellissimo, ma tu va bene, fatti così tanti che per scegliere la cosa migliore. Dopo parleremo del... Fra pochissimo di Laura, la tua indimenticata sorellina, mia cara amica, e veramente indimenticata. Però lo faremo col sorriso. Certo, assolutamente sì. Allora, a tra pochissimo con Ilaria Latini, il mago gentile che ci accompagna. Yeppa. Come... che cos'è Yeppa? Ma ti prego. In Liguria è molto gettonato, devo sì. dire. Sì. Comunque devi tagliarti i capelli e andare a lavorare, tu lo sai, perché devi smettere. Avere i capelli me lo lunghi. Dicono sempre. Devi smetterla, mago. A tra pochissimo, Voice Anatomy e Ilaria Latini. Voice Anatomy. Domenica 30 aprile, 15, 29 secondi e 40... 29 minuti e 47 secondi. Ilaria Latini al mio fianco sinistro, al mio fianco destro l'immancabile mago che oggi tenterà questo esperimento radiofonico. Abbiamo mai fatto. Ma nessuno l'ha mai fatto. Mai, direi. E potrebbe anche essere un grande successo. Potrebbe essere un grande successo, io ti uccido. 800 24 00 24. Manca soltanto un posto, dai. C'è gente timida, tante telefonate, tanti sms. Altre 49 238 6666. Ma la gente, vabbè, tre ci sono. Ah, non è male. Non so, pochi tre persone che giocano pochi. In diretta per radio senza pochi, vincere sono... niente. Senza vincere niente. Una penna, un foglio di carta, una chiave, un soldo. Un anello. Magari l'auricolare per avere le mani libere. Quello è... può essere. Soprattutto se state guidando. Esatto. Ilaria. La dicevo, Franco Latini, grande e indimenticato papà. Sì. Voce straordinaria, ma sì. Laura, amica Laura. Per me straordinaria, per te è una sorella. Sì. Ci manca. Sì, ci manca tanto perché ci ha salutato troppo presto. Sì. Però è rimasta quella voce bellissima. Noi abbiamo fatto un film tutti e tre insieme che è Scary Movie. Ah, è vero. E tu c'hai una scena con tua sorella. Sì. Ma io lì ero quello matto. Quello sì, bella. Stupenda al telefono. C'è tutta più successo una cazzata di questo tipo. Dice, ma io ho doppiato questo, questa. No, me fai bellissimo. Bella. Capito? Era bellissimo. E abbiamo un momento di Scary Movie che c'è una scena fra te e Laura. Mi hanno scelto da il nostro Mauro Meconi. È supportato anche da Alessia Navarro, ovviamente. Ecco che ha indicato il pezzo e Alessandro ci fa ascoltare questo momento. Lei che mi ha rubato il panino. Attenti, Russell Crowe al telefono. Stai lì, non farmi la pipì addosso. Le mie tette adorate. Dove siamo? Non saprei, ma penso che ci siamo. Dovrebbe essere intorno al miglio 62. C'è qualcosa che non va? No, è solo che... ho incontrato un uomo... Chi lo sa se è salvo? Oh, ti piacerebbe un sacco, Brenda. Come si chiama? Magari mi è già piaciuto. Tom Ryan? Sì, me lo sono fatto. Un bel ciccio bomba cinese? No! No! Però è il tipo d'uomo con cui vorrei dividere il resto della vita. Stupendo. Quanti anni fa era? Ti beh, tanti, era Marco Guadagno alla direzione. 15 anni fa, sì, almeno. Sì. Io facevo le due parti, dico, ma mi riconosceranno. Che parlare tutto così. E no, poi, ma il primo di Scary Movie era molto divertente. Sì. I primi erano proprio carini. Hai contato quanti ne hai fatti di film e quante serie televisive hai fatto? No, non saprei. Qual è quella a cui sei più affezionata? Di serie? Beh, sicuramente sono rimasta molto legata a Scary Movie. È del 2000, 17 anni fa. Mi è arrivata... E sicuramente sono rimasta molto legata a Dawson Creek perché ha accompagnato per me un'epoca che per me è stata di passaggio, no? Quando poi ho formato una famiglia, certo. Tutta la parte prima, siamo stati insieme anche con gli altri colleghi, Nanni, Francesco, Nanni Baldini, Stella. Non riusciamo a convincere a venire ospite. Sì, è venuto lui è timido. Ma tu guarda che veramente timido, ma tanto lo cominciamo a qualche modo. Sì. C'è una persona che lo imita benissimo. Senti, Mauro Meconi, lo dico a voce alta, puoi chiamarlo, non è il numero della persona, dell'imitatore dei doppiatori, che non è quello che sta su internet, conosciamo tutti, c'è un altro che fa le nostre voci. Sì. Ma no, è pazzesco. È pazzesco, lo inviterò al Gran Premio del doppiaggio perché merita veramente. Bello. È identico bello. A tanti ed è in maniera difficile. Io pensavo di parlare con Nanni Baldini, dice vengo finalmente, invece non era lui. Davvero. Ma no, guarda, per cascarci. Senti un po', Laura ha cominciato prima con te, come avete cominciato? Papà vi ha preso per mano a tutte, due su due, sì. Pazzesco. Credo che abbiamo iniziato insieme con quella serie lì. Poco più grande di te, Laura. Laura un pochino più grande di me, 3 anni più di me. Credo che abbiamo iniziato bene o male insieme, forse lei potrebbe aver fatto qualcosa prima e io non lo ricordo. Però insomma, sì, orientativamente lì vicino. Per cui, ve lo dico sempre, se volete sapere qualcosa di più sugli attori doppiatori, c'è un sito straordinario, è quello di Antonio Genna, basta cliccare grande. Il nome di un doppiatore vicino Genna. Se non sapete come trovare il sito, e Google vi porta immediatamente nelle nostre pagine. Va ringraziato, no? Lui ha fatto un lavorone. Sì, lo sto cercando anche per farlo venire ospite, perché lui poi insomma, come è venuto Gerardo Di Cola, insomma gli storici del doppiaggio devono assolutamente partecipare, magari facendo una collection di voci, di interviste a quelli che non ci sono più, che è una cosa... Alla quale bello. Insomma, bisogna avventurarsi. Sarebbe bella una trasmissione sì, così. Sì, no, ma io cerco sempre di ricordarlo e far sentire ogni tanto qualcosa. È venuto Mario De Angelis, abbiamo parlato di Gualtiero De Angelis, è venuto addirittura tantissime persone che hanno parlato e abbiamo anche ascoltato. Però certo. Magari fare le tematiche ricordando i grandi che ci hanno preceduto e che hanno reso grande questo mestiere. Sì, sì. I tormentoni, quanto sono stati più bravi loro di quelli originali, spesso e volentieri, nonostante all'inizio sia stato bistrattato il doppiaggio come se qualcuno evitasse di far studiare l'inglese alla gente. Ma insomma, non è così, si è capito. L'inglese anche o il francese. Oggi tedesco. C'è l'alternativa, la libertà totale. Ma se sei la lingua, questo. Nessuno te lo vieta. Senti, per cui la serie è Dawson Creek. Il momento di svolta è stato quello. Sono rimasta legata. Beh, innanzitutto è stata, credo, una delle ultime poche serie che veniva seguita molto, perché adesso ce ne sono tantissime. Sono certo, tutte seguite tante, perché è vero che molte di più piacciono, però sono tante. All'epoca, quando facevi la serie, ancora con Dawson Creek era quella serie che ti impegnava tanto tempo. Sì, ti impegnavi, poi c'avevi più tempo. Più se tempo. Potevano far bene. Si potevano fare. Adesso certo devi essere modo. Straordinariamente bravo perché ti devi sbrigare. E IAR poi l'hai fatto anche tu, Lisa. IAR l'ho fatto anche io, E Scrubs? Scrubs pure, che bella. Divertente, bellissima. Ma quante stagioni sono state? Sono finite, no? 9, 10? Tantissime, sì, è finito. Sì, ne sono tante altre. Ce ne sentiamo un momento di Scrubs dove tu dubbi Judy Reyes. Yes. Beh, pronunce mie sono veramente terrificanti. Che ridi, Gabriele Gentile? No, perché le pronunce tue... No, sono brutte. Perfetto, no, sono brutte. Perfetto. Tu sei... Perfetto. No, stai sbagliando, esatto. Perché io lo so i miei limiti. Non devi, no, perché... Pino potrebbe mandarmi via da un momento all'altro. No, io il gioco lo voglio fare, se sarà un insuccesso, dai. Non lo sarà. Ah, beh, qui salutano, scusate, non sto rispondendo ai vostri sms, sono tanti. Salutano Ilaria, ringrazio ancora Alessandro Benvenuti, la sua carriera, eccetera, la tua, quella di tua sorella, di papà. Qualcuno dice, prima ditta torna insieme, ho sentito bene, sì, hai sentito bene, torna insieme per 20 puntate con una sponsorizzazione importante e poi ne faremo altrettante anche all'estero, pensate, mi sono accorto che camminando per Malta sono più famoso lì che a Monteverde Vecchio dove vivo. E allora in un attimo si è incontrato il ministro della cultura, eccetera, c'è l'appuntamento fra 2 settimane. E lì parleremo di queste nuove 20 puntate mute e qualcosa in inglese. Ah, che bello! Bello, per cui carino. C'è una rinascita mai morta poi, perché insomma il nostro saluto è stato momentaneo, dovuto all'età, dovuto a vari impegni di diversificazione di vita, di figli, eccetera. Per cui non siamo ancora amici, lavoriamo insieme. Chi viene a teatro ci vede insieme anche a me a Ciufoli, doppiamo insieme con la Draghetti spesso e volentieri. Per cui insomma c'è grande affetto e amicizia. Senti, invece, sentiamoci questo Scrubs, vai. Bambi, mi stai trattando male? E anche se fosse? Tesoro, prima dovresti fare il caratterista di minoranza etnica in un B-movie per riuscirci. Tu sai di cosa parlo, vero? Piccola, ti prego, è la pura verità. Spiegalo a quest'uomo, per favore. Prima la mano così, poi muovi il dito e poi parli con il naso. E ora puoi trattarmi male, funziona così, ma non lo puoi capire se non sei uno di noi, quindi non te lo chiedo neanche. Bene, io me ne vado. Cosa? No, no, non farlo, dove vai? Dove stai andando? No, ma sei così a casa. A chi assomigli tutti questi personaggi che fai? Ah, forse a nessuno. A tutti, sì, c'è un pezzettino di noi in ognuno, dai. Sì. Non, nessuno ti incarna pienamente, ognuno ha un pezzo di te. Senti, invece, come ultime serie alle quali ti stai affezionando, quali sono? Dove ti stai radicando? Ah, guarda, sicuramente proprio tu hai nominato Francesca, e con Francesca Draghetti, Two Broke Girls, che non so come è tradotta qui in Italia, ma non so voi italiani come è serie. Noi voi italiani non so come traducete loro, italiani certe cose. Non so come sono dei titoli improponibili certe volte, però è una serie carinissima che facciamo con la direzione di Francesca, ci divertiamo. Beh, come Francesca, matte poi, vabbè, io con lei faccio American Dad, ma lei è brava, perché è una brava adattatrice, lei ha delle soluzioni geniali, sì. Che a volte per portare quella battuta inglese col gioco di parole, lei ovviamente sul comico è la nostra Treccani. Sì, posso immaginare. Io e Ciufoli arrivavamo a 7 vocaboli, contavamo fino a 15, insomma. Bello. Il resto ci pensava lei, sì. Pure Tiziana Foschi, insomma, le donne si sa, ci avete una marcia in più, dai. Invece come film dove sei impegnata adesso? Guarda, diciamo, oddio, quando fai queste domande dirette non capita a molti colleghi che dicono non te lo so dire. Esatto, sì. Perché uno entra alle 9 di mattina fino a mezzogiorno, doppia una serie, sì, un personaggio, una serie da 1:30 alle 4:30 stai impegnata in un film, ma esci da lì e vai a fare un'altra serie. Sì, torni a casa e dici: ma se non abbiamo uno psichiatra noi che ci aspetta a casa con qualche goccia di qualcosa, e ma forse facciamo molta analisi in sala. Ma quello è, io lo dico sempre: tu ti permetti di tirare fuori da te stesso qualsiasi tipo di personaggio, lo sfoghi fuori, lo sfoghi in sala. Quando arrivi a casa diventi proprio apatico, proprio... senza carattere. Sì. Ma Suarez si arrabbia se tu non c'hai carattere. Suarez picchia, no. Il senso bello del termine, no, ma è enorme. No, poi ci divertiamo insieme, ci piace l'ironia a tutti e due. Sì, no, ma tutti i sudamericani, no? Vabbè, lui è spagnolo? Però, figurati, siamo sempre Madrid, una vita madrilegna. Allora ti piace proprio quello, è chiaro che sì. Però quelli doppiano male, a me non mi piace. Sì, lo sa, lo riconosce anche lui, lo sai. Sì. Perché Suarez fa delle cose, lo sai? Sì, non lo sai? Cavolo, faccio pure io quello meno. Gli spagnoli sono troppo. Se voi sentite il film doppiato in spagnolo, tutta è sta cosa. Anche se ti dicono questa cosa, non mi piace. Sta cosa che non te lo abbia detto che eso era sì. Aspetta, rilassati, è un film d'amore. Parlate doppia lingua a casa? Sì. I bambini, per cui i ragazzi parlano. Sì, bilingue. Io lo dico alla Navarro di insegnarmi lo spagnolo, ma non lo fa. A proposito, la Navarro la intervisterò il 14 maggio, perché debutta al Quirino con Frida Kahlo, Ritratto di una donna, al più bel teatro d'Italia. Vero. E allora bisognerà che il capo progetto di codesta trasmissione venga ospite. Se me lo concede, Navarro, lei verrà ospite? Te, va bene, non mi parlare l'auricolare che la gente non lo sente, per cui non si sa. Verrà ospite, sarai... Beh, lei non è che ama queste cose così mondane, però insomma bisogna farlo. Amore mio, allora, chi va convinto? Papà? No. Mamma? No. Vista bravissima, Maria Pinto, no? Maria Pinto, bravo. Bravi loro, vabbè, pure io, perché vi conosco. Perché con la storia di Fabrizio c'è un po' di confusione, esatto. Poi parliamo anche di Fabri, so Vidale, che è stato qua. Certo, poi. Jack Black è stato qua. Siamo una famiglia estesa, noi. Sì, una famiglia larga, ma tutti carini. Sì, dai, sì. No, sono venuti bene. Ci amiamo molto. Fabrizio è delizioso, lo adoro. Guarda, noi quando eravamo piccoline loro ci hanno... proposto, nel senso proposto, che chiaramente è stata una riunione familiare. C'è questa cosa, vi va di venire. Poi nel tempo abbiamo riscelto. Laura addirittura un periodo ha smesso da adolescente e poi ha chiesto proprio lei. Sì, perché poi insomma stare in sala vuol dire evitare magari lo sport o un'altra cosa. Magari concide fidanzato. Il turno con la festa degli amici. Devi assumi delle responsabilità diverse, devi essere pronto a farlo. Quindi deve essere una volontà. Ti deve andare. Ti deve proprio andare, quindi deve essere. È importante che per i ragazzi sia una scelta sempre. Io anche con i miei. Il primo fidanzato tu dove l'hai trovato? In sala o a scuola? No, neanche a scuola. No. Non l'hai trovato? No, in campagna. Ma come in campagna? Latini! In campagna, perché noi andavamo spesso in Umbria e andavamo a cavallo, al maneggio. C'avevamo tutti dei gruppi di amici, tra cui in un paesino si era creata un'amicizia con una comitiva. Amore, fermati, questa è la quarta puntata di una serie che hai doppiato, non è la tua vita. Oddio. Capito? Aspetta, c'hai ragione, non ma che era film così? Era? Esatto. Senti, io ci ho provato, nel senso, i maschietti con la propria voce, soprattutto chi fa il nostro mestiere, ci ha giobbato un po' qualche volta, eccetera. Ti è mai capitato di giocare la tua voce per conquistare un uomo? No, no, lo sai che cosa facevo? Secondo me, gentile, loro non lo dicono. Beh, io da mago vedo che stai raccontando una bugia. Sì? Ma sì. Dici? No, no, no, no. Ma se me lo dice... Se... Allora, guarda, io quando ero ragazza, per non mettere... Questa storia è conosciuta, insomma, nei miei gruppi di amici. Per non mettere a disagio tante volte, perché ci mettevamo a parlare del doppiaggio, cos'è, e se passavi due ore a parlare, certo, di quello, certo, che facevi. Esatto, doppiatore questo. E questa è la cosa più da voi maschietti, dai, che sapete tenere banco per due ore. Sì, Nanni Baldini e Francesco Pezzulli erano maghi in questo. Hanno fatto delle così. Cose proprio, sì. Pezzulli io lo mando a cagare, esatto, in lontananza da qui, sono amici, veramente scherzo, che lui era la Radio DJ, che io saluto, il Trio Medusa, sono straordinari insieme a Pezzulli. Si divertono a prendere in giro a giocare col doppiaggio, io da qua faccio la parte quella più seria, certo, eccetera, certo. Per cui c'è questo raffronto a distanza col Pezzulli. Dei numeri. Quando noi avevamo 18-19 anni, loro raccontavano che uno faceva Sean Connery e l'altro Kevin Costner, no, che non che era bucciati, credibile, ma cazzari, gli credevano, no. Cioè avevano la metà degli anni di questi attori. Ma ne so, a prescindere da dire la stupidaggine che uno doppia uno o l'altro, ma con la voce per telefono, magari hai mai pianto e invece non stai piangendo, l'hai conquistato utilizzando una vocalità in quel momento che non ti apparteneva, perché non è che ci appartiene fare come nei film americani, la segreteria telefonica. Ciao Ilaria, sono Pino. Certo. Ci vediamo oggi pomeriggio. Guarda, ci vediamo al bar. Questo inevitabilmente può essere. Inevitabilmente questo può essere venuto fuori, nel senso che già da quello che cambia. Vedi? Io mi ricordo, ero la preferita delle mamme, delle mie amiche e dei miei amici, perché certo, telefonavo: buonasera, sono Ilaria Lattini, posso parlare per favore? Mi sono innamorato. Già bene. Hai capito? Mi sono innamorato. Però non era diciamo come lo utilizzavate voi maschietti, perché no, voi no, maschietti era proprio in maniera divertente. No, forse no, noi non ci siamo mai riusciti a divertire. Ma come divertente? Avete fatto io voi? Facevo voi provacce. Facevate dei numeri, no, guarda. Io ho fatto. Devo dire, anche mia moglie c'è cascata e poi adesso ha chiesto il divorzio da poco, però insomma, ecco, hai capito che non fino ero... al 14 maggio, però tienila, mi raccomando. Sì, sì, no, la devo reggere più possibile, che si accorta poi al buio io reggo, poi accende la luce e mi sento. Devo dire che però gli audio messaggi di Pino su WhatsApp li tengo. Vabbè, ma quello è naturale, mica posso fare. Non ci riesco più. Fa effetto. È questo, è quello che tu non dici, ci che uno a un certo punto non divide più. Quindi inevitabilmente a un certo, sì, punto ti accorgi che esce fuori stessa, un suono. Insomma. E però è tuo. Senti, t'appartiene. Andiamo in pubblicità in maniera molto. Vai. Meglio questo momento. Andiamo in pubblicità. Eccola là. Dai, adesso compro tutti i prodotti che sentiranno. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Sanati. Eccoci, signori miei, 15:46 primi e 17:18 secondi in questo momento, Radio 24 Voice Anatomy. Grazie per tutti i bei messaggi che state mandando. Io lo leggo, sapete, anche quelli brutti, però sono tantissime puntate e non arriva almeno uno brutto, ma qualcuno manderà. Io mi ricordo ancora, e lo ricordo perché tanto lo ricordo, la prima puntata di quasi due anni fa di Voice Anatomy, primo messaggio, sono rimasto scioccato, perché il signore dice: oh, Pino Insegno finalmente che fa la radio, e così io finalmente posso lavare a terra, pulire a terra con la mia aspirapolvere, visto che avete la stessa voce. Terrificante, durissimo, bugia, però. Ma sai, quando so così li devi leggere, dai. Quando so gratuiti, offensivi, no, non è mai successo, devo dire. Certo. Però insomma, ci sta. Se il giudizio è critico, è interessante, come qualcuno mi dice: ma te stai zitto un attimo. Però doppiatore della Folletto non è male. Non è male, hai fatto pubblicità, non si può, lo dire. Sai. No, è un ognomo basso. Esatto. È un ognomo basso. Questa è la radio Confindustria. Senti, Latini, tu hai doppiato un sacco di cose. Abbiamo sentito prima pure Scary Movie, come L'Incanto, Scraps. C'è un altro film carino che è 10 cose di noi, dove doppi Pas Vega. Ah, che hai tirato fuori. Sì, quello è Meconi, eh. È Meconi, perché voi dovete sapere che anche tutti i nostri film che facciamo non hanno tutti i diritti per poter riuscire a scaricare dei brani, sennò dovresti prendere tutto il DVD o il Blu-ray, scaricare tutto e prendere il pezzo, cioè una settimana per ognuno di voi. Allora, il bravo Mauro, che è un bravo anche montatore, eccetera, riesce a tagliuzzare quella e a ricordare qualche buon momento. Ce l'ascoltiamo, Pas Vega? Lui vuole capire. Premettilo a posto? Sì, tu. Tanto non lo prendi. Sbrigati. La mamma non ti ha insegnato a contare? Lei vuole cambiare. Anche il direttore deve essere così bravo coi numeri. Lì. Mi ha attori sono tutti come lei? Purtroppo no. Dovrebbero venire a prenderti o sbaglio? No. Ti porterò a casa, però ho delle rogne da risolvere. Insieme per scoprire la cassa numero uno. Ehi, il direttore. 10 cose di noi. Bella atmosfera. Lo rifaccio? Direi che va bene così. Andiamo, andiamo, dai, parti. Stasera ristendete tutti. Esiste qualcuno con cui non parli? Che begli occhi. Che cos'è questo colloquio? Segretaria. Uguale, protagonista. Da regista di City of Angels. Insomma, appena vedo qualcuno, io so che parte dargli. Vedo il ruolo. Mi fa venire voglia di essere donna. Ho questo effetto sulle persone. Ma voi famosi che fate quando vi mettete nei guai? Mettiamo in piedi la scena. Il premio Oscar Morgan Freeman. Tu reciti in ogni momento. Paz Vega. 10 cose che ti piacciono di più nella vita. No? 10 cose di noi. C'è Rodolfo Bianchi che fa il trailer. Ah sì, sì. Che mi copia lui, e... bisogna dirlo che lui copia me. Lo scherzo è un grande. Sì. C'è Renato Mori, visto che ricordiamo amici. Sì, grande, no? Renato. Grande Renato. Gimli e... della Compagnia dell'Anello e non solo, Morgan Freeman. Sì, sì, infatti qui era Morgan Freeman. E questo è stato un film, mi capita di farne spesso, vedi, tu prima hai citato questa cosa, con accento spagnolo. Sì, perché ma Paz Vega parlava proprio... Dove l'hai conosciuto, Diego? A Diego l'ho conosciuto a Istanbul. Certo. Ovvio. Dove potevo conoscerlo? Diego? Uno spagnolo a Istanbul. A Istanbul, sì. Fa, Istanbul? Io ero andata in vacanza. Da sola? No, con le mie amiche. Ma Istanbul non è una città. Infatti noi volevamo andare in Giamaica, che anche uguale. Non è proprio l'ideale. Ma no, io non Giamaica so cosa è successo. Pino, guarda, io sono uscita dall'agenzia di viaggi, peraltro ero andata dalla madre di Valentina Mari, da Brigitte. E lei, non so cosa è successo, mi ha fatto tutto un discorso per cui io sono uscita con i biglietti per Istanbul. E ma poi sono arrivata lì, ho conosciuto Diego. Le mie amiche ancora me lo rimpacciano. Cioè, tu pensi il destino. Tu dove andai in Giamaica? Sei andato lì, ti hanno convinto ad andare a Istanbul senza, perché ma non ci pensavi neanche. Non so cosa è accaduto. Ma l'hai scelto dentro. Tu per tutti quanti, tutte le amiche ma tue. Ma non l'ho scelto viaggio. Neanche io. Io sono uscita con dei biglietti, non sapevo neanche come dirglielo. Adesso ha detto la Navarro per Interfono. Io sono stata sfigata nel mio viaggio ad Istanbul allora, perché lei l'ha incontrata nessuno. E perché lui ti aspettava qui. Esatto. Insomma, siete andati tutte a siamo andati lì, ho conosciuto Diego, e colpo di fulmine. Turista? Lui no, lui era andato a fare un'esperienza post laurea, a fare un lavoro, un'esperienza lì nel turismo. Mm-hmm. Quella sera non voleva uscire, ma non gli pensi. Andava, all'ultimo l'hanno convinto e ci siamo incontrati in questo locale sul Bosforo, quindi pure questa è la terza puntata di qualche sceneggiato. Oddio, Latini, tu c'hai dei transfert bruttissimi, tu racconti la tua vita come se fosse dentro un film, tu l'hai conosciuto, è così. Giù a Monteverde Vecchio, a Villa Panfili, il giorno che mercato, no, no Villa c'era il giorno di solo a Villa Panfili, sta a fa fooding, ha incontrato sto spagnolo. Ah, era così. Ma sì, ti ricordi, c'era né arte né parte, c'aveva questo. Niente, ti no. Sei inventata sta laurea, Istanbul, il Bosforo. Quante amiche eravate? Bellissimo, noi eravamo in 5, ma eravamo insieme a un gruppo, in quella sera eravamo 15 ragazze a un tavolo. Beh ragazzi, a chi tocca non si ingrugna, si dice a Roma. Sì, sì. Quindi ragazze, tu sei l'unica che ha trovato ragazze. Però, sì, che ha svoltato sì, il Bosforo. Lui è arrivato e ha comunicato ai suoi amici che io dovevo... Esta pupa, sì, me gusta. È para mí. Tu non parlavi spagnolo all'epoca? Io parlavo, sì. Parlavo già un pochino spagnolo. Di spagnolo, però in verità le nostre prime comunicazioni sono state in inglese. Inglese e poi dopo abbiamo cominciato con lo spagnolo perché lui non parlava una parola di italiano. Certo, e poi tanto in certi momenti qua. Non c'è bisogno di parlare. Poi ha conosciuto te e ha deciso di venire a vivere e di sposarti. Qui. E noi però non possiamo continuare a vederci così, io esatto. E Diego, cioè dobbiamo fare altro. Trovato una soluzione. Ma la soluzione, ti ho fatto 3 figli con te. Basta. Esatto. T'ha dimostrato, basta, no, adesso Diego torna esatto. Chi. Esatto. Oddio, che bella cosa, no? Va bene. Tu hai lavorato proprio con tantissimi direttori, sei sì. Devi ringraziare qualcuno. Chi è stato quello che ha creduto in te prima che Ilaria Latini diventasse Ilaria Latini? E soprattutto non considerando il fatto che era Papa Franco, eccetera. Certo. Guarda, io sono grata per esempio a Massimo Giuliani, perché quando papà è morto comunque presto, papà io avevo 18 anni, sì. E lui mi ha aiutato tanto, mi ha aiutato in tantissime cose, veramente, è stato veramente vicino. Carino, proprio professionalmente, eh. nel senso, mi ha dato tante opportunità, anche lui e Tiziana mi hanno protetta su tante. La tua moglie di bravissima direttrice assistente, ma su generale questa dottile. Sono stati proprio cari, veramente carini. E poi ci sono tante, perché comunque noi siamo comunque una grande famiglia in questo settore, cresciamo insieme, inevitabilmente si crea un rapporto anche di discussioni, di andare d'accordo, però comunque molto simile a quello di una famiglia molto estesa. È vero, una famiglia molto larga, anche perché quando se ne va, ecco, qualcuno di noi, un pizzico di noi se ne va insieme a lui. Sempre, sempre, sì, sì. Siamo cresciuti tutti insieme. Pensa, Pino, che io ho i ricordi di te prima che iniziaste la premiata ditta. Io ero Allegra Brigata. Sì, tu non ti ricorderai, no, io proprio parlo invece di quella fase là, della premiata ditta, perché io facevo una serie nella sala accanto dove lavoravi tu, andavo ancora al liceo, e tu ci raccontavi di questo progetto. Pensa bello. Che storie carine, no? Che abbiamo. Sì, io mi ricordo, io guardavo Beautiful e mi ricordavo che tu le raccontavi questo progetto. Sì, sì, facevo, sono troppo figo. Esatto. Vado in vacanza sull'Oceano Paci, perché? Perché de figo basto io. Ma facciamo 20.000 personaggi, facciamo, io ascolto quello nostro e quello vero. È vero, No, ma pazzesco, quando vengono in Italia, che si fermò proprio il traffico a Roma. Io ci provai anche con Brooke quel giorno, perché proprio bella era. Sì, stavo a parlare 30 anni fa, ma bella, bella. Anche dal vivo. Sì, ho detto stasera, in un inglese impossibile, ho detto c'è questa grande, al Plaza, eccetera, c'è questo grande questa grande festa danzante, eccetera, venire, ti vengo a prendere io in albergo. Lei ha fatto sì, sì, c'è anche mio marito e i miei tre figli. Ho fatto, ah, ecco. Ciao. Per te, mio beautiful, è finito lì con Brooke. Io volevo da... Ero rigido, ma insomma, non mi ha detto benissimo, no. Che ero lì, mi si è affilato, vabbè, ma insomma l'importante era che noi abbiamo giocato con loro bene. Senti tesoro, tu hai fatto tanti cartoni animati, anche, l'ultimo grandissimo successo è Zootropolis. Pezza anche, Cattivissimo me. Sì, anche Cattivissimo me con Fiamma, sì. Che ti fanno fare? Allora, Zootropolis ho fatto diciamo, erano due protagonisti, che eravamo io e Alessandro Quarta, e con Massimiliano Manfredi. Beh, meraviglioso, il gigante Manfredi, meraviglioso, sì. Si è creata in sala un'atmosfera bellissima. Massimo, devo dire, guarda, io lo urlo sempre, un ambiente incredibile. Sì. Meritocratico, fatto di gente che non è invidiosa dell'altro, dove veramente, se io lo urlo, niente, mi dico, ma che cambia questa frase? Nah, cambia. Quando perdi un provino tu, lo vince un altro bravo. Esatto. Io la urlo questa cosa, perché è da prendere ad esempio in tutti i settori della nostra vita. Santa miseria, a parità d'amicizia, di bravura, prendo un amico, ci sta. Ma lì è difficile prendere una persona sotto merito, perché fai un cattivo servizio a lui, a te stesso per il film, e a catena una reazione bruttissima per tutti. Per cui è bellissimo lavorare così, cioè veramente a tutti i livelli, c'è una media altissima di grande professionalità. Per cui ecco, questo è per dire che non è che siamo soltanto dei buonisti dicendo che bravo, che simpatico, ci sono cresciuto insieme. No, no. È un ambiente così, è un ambiente. Tanto è, certe volte è un po' disunito. Sì, non ci crediamo a volte. Certe volte sì, siamo un po', non si capisce. Fai uno sciopero, dico, aspetta un attimo che arrivano i sottotitoli, così vinci. Siamo i meno pagati in Europa. Bisogna dirlo, perché la gente dice, chissà quanto guadagno, un film ha cassato 20 miliardi. Non è così. Siamo comunque privilegiati perché, sicuramente, ma insomma, per i guadagni che abbiamo, però insomma credo che gli spagnoli ci battano. Ma chi, francesi? No, gli spagnoli in giù. I soldi? Come soldi? Sì, prendiamo più noi. Dei spagnoli? Vabbè, ci sta. Oh. Però certo sì. Siamo bravi. Esatto. Dila, Diego. Senti, ma tu non hai mai sentito... Sarà più bello di me, ma non è bravo come me. Non hai mai sentito che in Spagna fanno, veramente, fanno i doppiaggi per regione? No. Cioè tu ti puoi, che ne so, trovare in Kevin Costner, esatto, sì, quando non in valenziano. Ma dai, cambiano come se lo fanno noi in marchigiano. Esatto, come o se in tu umbro, vai. Esatto, sì. In sardo, bravo. Sì. È una cosa, ragazzi, cioè se andate in Spagna accendete i canali Navarro, televisivi e guardatevelo. È così che in Spagna non lo sai, ma tu Sud America. Non lo sapevi? No, e forse lei è poi uno anche. Si rende conto. Lei è Sud America, lei è un'altra. Lei ama il Sud America. Navarro è così che dobbiamo fare. Infatti Frida Kahlo non è che ha preso una spagnola o. Certo. No, è andata un'altra parte. Senti, noi stiamo andando nella pubblicità, quella obbligata, va bene, così andiamo anche sfogo la nostra vita, soprattutto della vita in giù, fa pipì, insomma questo ci sta dopo un'ora e mezza, vi chiedo scusa, insomma è una questione di prostata, ma certo, ci sta, insomma. ci sta. E siete pronti perché fra un po' cominceremo l'esperimento con il mago gentile? Ma certo, che no, va bene, ricordo il numero 800 24 00 24, rimane solo un posto. Tra poco, anzi tra un po' di più, ho qualche minuto il GR insieme al mago, ma soprattutto salutiamo così Ilaria Latini. A tra poco. Un cordiale saluto da Armando Torno, musica maestro di questa settimana, sarà in collegamento con l'Università di Roma, in particolare con il professor Franco Piperno, che vi parlerà di un libro recentemente da noi concepito e recentissimamente uscito, dal titolo Musiche nella storia, dall'età di Dante alla Grande Guerra, realizzato da un gruppo di docenti della Sapienza con l'intento di proporre al lettore una riflessione sulla collocazione delle musiche nella storia nel periodo indicato. A risentirci dunque questa sera alle 21.15, un cordiale saluto da Armando Torno. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Sanato. Bentornati signori, 16.05, prima di cominciare il gioco con il grande mago, abbiamo ancora Ilaria Latini, dall'altra parte al telefono c'è Massimiliano Manfredi, lo stiamo chiamando, e nel frattempo però, visto che noi siamo abituati a far leggere ai nostri amici attori, doppiatori, attrici, doppiatrici, qualcosa, normalmente anche qualcosa inerente sì allo spettacolo, al teatro, ma tante volte come nel caso che sono Rodolfo Bianchi ha letto le istruzioni alla lavatrice o Domitilla ha letto come mettere le mensole con 150.000 visualizzazioni, pensate un po'. E qui abbiamo, visto che ho ricordato all'inizio che Ben King, grande autore non soltanto di Stand By Me, ma Stand By Me è quella riconosciuta da tutti, che è Stai Con Me. E allora volevo far leggere a Ilaria queste parole in italiano di Stand By Me, con in sottofondo la musica di Stand By Me, e visto Stai Con Me vuol dire tante cose, vuol dire rimanere vicino a tutte le persone che non ci sono, pur sentendole fortemente al nostro fianco. Vai, Ilaria. Stai con me. Quando cadrà la notte e la terra sarà buia e l'unica luce che vedremo sarà la luna, no, non avrò paura. Oh, non avrò paura finché tu sarai con me. Sarai con me. Quindi, cara, cara, stai con me. Oh, stai con me. Ah, stai con me. Stai con me. Se il cielo che noi guardiamo dovesse crollare e cadere e le montagne dovessero sbriciolarsi nel mare, non piangerò, non piangerò, no, non verserò una lacrima finché tu sarai con me. Stai con me. Quindi, cara, cara, stai con me. Ah, stai con me. Oh, adesso stai con me, stai con me. Quindi, cara, cara, stai con me. Oh, stai con me. Oh, adesso stai con me, stai con me. Ogni volta che sei in difficoltà, non vuoi stare con me. Oh, stai con me. Non vuoi stare adesso, stai con me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So dark. Facile, ma non dico non era facile per leggerla e dedicarla, perché sicuramente è intensa. Non era facile dare dei colori a una stessa parola che viene reiterata così tanto. E si rischia invece di, no, di essere piatti, eccetera. Ma lì c'era l'emozione, c'era la grande professionalità. Brava. l'abbiamo dedicata a, Laura. A tutti loro, a Laura. A Laura. Just as long as you stand by me. Stay by me, stai con me. Arrivano dei messaggi, uno in spagnolo ha detto che bottas. Si dà sempre il modo di fare un sorriso, sempre, ma è giusto che sia così. È giusto che sia così. Non abbiamo trovato Massimiliano Manfredi che evita di rispondere al telefono, ho detto, però abbiamo il primo, abbiamo Giovanni per il gioco, ma vogliamo sentire anche gli altri o un gioco diverso per ogni persona? Ma facciamo un gioco diverso per ogni persona. Allora, c'è Giovanni, Giovanni, pronto, stai con noi, Ilaria, stai con me? Certo, ci stai in questo momento, dai. Sì, sì. Allora, Giovanni, pronto? Pronto. Caro Giovanni, da dove ci chiami intanto, come si dice pronto sempre? Di Cuneo. E là là! Salve, complimenti per la trasmissione. Grazie, queste sono le cose più belle, no? Da dove chiami, come ti chiami e complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie davvero. Giovanni, allora sei pronto per fare questo primo esperimento di magia radiofonica? Sì, sono un po' scettico, ma proviamo. Sì, sì, guarda, io anch'io, perché è difficile, però conosco questo grande mago e l'ho visto in azione, non soltanto in televisione, anche a 20 centimetri di distanza, che lui fa una micromagia pazzesca, dove anche una sera a casa mia, giocando fra amici, lo scettico Magalli ha dovuto ricredersi. È vero, che Giancarlo ha visto di tutto e di più, per cui vediamo, dai, proviamo, sono anch'io. Mi ripete il suo nome? Giovanni. Giovanni, possiamo darci del tu? Dobbiamo. Ok. Sono io che rispondo, sto doppiando Giovanni praticamente. Giovanni, chiedo solamente una cosa, hai le mani libere oppure il telefono in mano? Veramente, sono in auto, ma c'è mia figlia che è già attrezzata, può farlo lei o devo farlo io? Per me è uguale, Giovanni, non è un problema. Bene. Allora. Bene. Vai con la voce, qui è tutto voce. Ok, allora Giovanni, io ho un mazzo di carte in mano, ok? Lo sto guardando in questo momento. Giovanni, tu conosci le carte, vero? Sì, le carte da gioco, no? Certo, le carte da gioco. Faccio una prima piccola premessa. Le carte hanno veramente una relazione con la vita dell'uomo straordinaria. Perché c'è il filosofo. È la verità, però è vero. Nel mago c'è la parola. Intanto le carte sono rosse e nere, come l'eterno dualismo della vita, quindi il bello, il brutto, il giorno e la notte, l'uomo e la donna, il bene e il male, quindi già è qualcosa di importante. Sì. Dopodiché abbiamo quattro semi, che forse lei conoscerà, cuori, tu conoscerai, cuori, quadri, picche e fiori, ad esempio le quattro stagioni. Gioco poco, giocavo a carte, comunque le conosco. Certo. Le conosce, perfetto. Ma non vuole trattarti da caffone, lui è perché ci tiene un mago a spiegare tutto per filo e per segno. Esatto. Vediamo dove va a parlare, perché io non lo so. Le carte sono 52 come le settimane dell'anno. Eccolo. E già qua la cosa si fa più interessante. Però se facciamo la somma matematica di ogni valore del mazzo di carte, otteniamo esattamente i giorni dell'anno. 365. Ah, esatto, perfetto. Interessante. Quindi ognuno di noi ha una carta da gioco fortunata, ok? Io adesso, Giovanni, ti chiederò di pensare una sola carta da gioco, non la dire, pensala. Beh, certo. La penso. La stai pensando? Ok, questa è una prima prova, dovesse andare male, passeremo immediatamente al gioco successivo. No, te ne vai proprio a casa, gentile, te ne vai proprio via da Radio 24. Giovanni, adesso conto fino a tre, se vuoi l'opportunità di cambiare la carta che è nella tua mente, ok? 1, 2, 3, se vuoi cambiala. No, ho deciso di tenere quella. Va bene, da come l'hai detto Giovanni, ho già provato a studiare la tua voce, la tua carta è una carta rossa. Sì, però vabbè, 50% di probabilità. Sì, okay. Sì, vabbè, però già culo c'è riuscito, già una cosa, però va bene. 50% di possibilità. Giovanni, la tua carta è anche di quadri e ne sono certo di questo. Beh, a questo punto rimango un attimino interdetto perché effettivamente ho pensato quadri. Perfetto, adesso Giovanni io nomino 5 carte. Mi raccomando Giovanni, dica niente nel caso lei sentisse la sua carta, ok? Non dica niente. Asso di quadri, 2 di quadri, 3 di quadri, 4 di quadri, 5 di quadri, 6 di quadri. Le faccio solo una domanda. Qui c'è la sua carta? Sì, non so come ha fatto, ma sì. No, è solo una domanda, se no avrei letto le altre. Comunque sì. Qui c'è la sua carta. Perfetto. Sì, sì, sì, sì. Giovanni, è solo questione di un secondo. Sto toccando il microfono. Sì, anche in una maniera un po' si troppo sente, sensuale. C'è del fumo che esce perché fumo. Mi sto concentrando. No, vabbè, se ci fosse la televisione sta facendo uscire il fumo dal microfono, vabbè. Vabbè. Giovanni, mi dica solamente se sì o no, lei sta pensando al 2 di quadri. Guardi, meno male che mi sono fermato, perché cioè io non so. È vero? No, certo che è vero, ma dai. Yes, no, presa, vabbè, ragazzi. Presa. Allora, vi giuro, un attimino sì, guarda, l'ho sentita anche dalla voce di Giovanni, l'emozione e la verità. Veramente, cioè non ero, l'ho detto, ero scettico di questo. Ah, ma chi lo dici? No, perdonami, io conosco il mago Gentile Gabriele e lo conosco per la sua grande professionalità in tutto il mondo, lavora e l'ho visto in azione a pochi centimetri da me, da me, dagli altri, fare delle cose pazzesche. Sinceramente, quando abbiamo parlato di fare questi primi esperimenti per radio, all'inizio ho pensato di voler chiamare magari un paio di amici, perché se dovesse andare male, almeno pariamo un attimo la situazione. No, ho voluto fare, gli ho parlato con lui all'inizio, ho detto tentiamo una cosa senza rete, che è la cosa più bella, rischiando di sbagliare, e lui ha detto sì, è così. Ora, grazie Giovanni, davvero. Grazie. Complimenti signor Mago. Veramente. Signor Mago, gentile. Signor Mago. No. Giovanni, nessuno mi aveva mai chiamato. E come me, signor Pino, fa ridere. Come me, signor Pino, fa ridere. Complimenti. Giovanni, grazie. Grazie di esserti prestato a questo gioco. È bellissimo. Sì, sono rimasto anch'io. Ne ho altre che vorrei fare ad altre persone. Persone. Sì, sono prenotate altre persone, per cui abbiamo Veronica. Giovanni, grazie, un saluto a te, alla tua famiglia, grazie di seguirci. Complimenti. Grazie. Ma al mago o alla trasmissione? Grazie. Solo al mago? A tutto. Ah, grazie. Complimenti, buonasera. Ciao Giovanni, grazie, che bella Giovanni. Cosa. Guarda l'aria come questa... sta. Era un gioco di riscaldamento, adesso ne proviamo un altro, spero che la persona... Santa miseria. Chiamerà? Loro chiaramente non lo vedono, non riescono a vedere, ma io mi diverto a fare queste piccole cose con l'antipop, no? Cioè mi diverto a schiacciarlo, premerlo, a sentire il suono. L'antipop, lo diciamo che cos'è, quella spugnetta che avvolge il microfono, no? Quindi mi diverto a fare queste certo. cosine. 800 24 00 24. Abbiamo Veroni. Quanto manca alla fine del blocco? Perché non vorrei... Allora la facciamo dopo, chiudiamo adesso. Allora Veronica, ciao intanto, pronto? Ciao. Veronica, da dove chiami? Da Roma. Quanti anni hai? Sembri giovanissima, cioè mamma e papà vicino. 30 anni. Che lavoro fai, Veronica? Senti come ride. Carina. No, niente, io mi sono purtroppo laureata da poco perché... Purtroppo? Perché purtroppo? Ma come purtroppo? Perché tanto sai che poi sarà un disastro. Sì, perché tanto, vabbè, vediamo come va. Sono laureata in giurisprudenza e vediamo. Ci servirà, un penalista. Penalista se qui, se continuiamo così. Servirà. Ma ti piace il doppiaggio? Ti piace... Tantissimo. Chi preferisci, Ilaria Latini o Pino Insegno? Dillo, dai, tranquillamente. Grazie, ruffiana, ha capito già tutto, Ilaria. Perché tu sei ospite e te ne vai, io rimango. Esatto. Non so che sta scherzando, si sente. Beh, sei molto divertente o divertita. Senti, resta con noi, non ci lasciare, e fra poco torniamo, un minuto e mezzo, due forse, e giochiamo con te, va bene? Ma è bellissima questa cosa, ci hai stupito. A tra poco, Voice Anatomy e il Mago Gentile e Ilaria che ci sta accompagnando. Voice Anatomy. Ma non vedevo l'ora di ricominciare questo blocco con questa nuova magia, perché stavamo io e Ilaria veramente ancora in preda a questo, a cercare di capire come il Mago Gentile Gabriele abbia fatto per radio questo primo esperimento a distanza di PNL, di comunicazione non verbale, programmazione neurolinguistica, eccetera. Giustissima è questa trasmissione. Io vi ricordo anche, visto che ci siamo, è giusto ricordare che è uscito il grande libro della magia e dei trucchi più famosi, che è scritto dal Mago Gentile, che è veramente in tutte di Lisciani, come sì, Lisciani giochi, eccetera, dove è in tutte le più grandi librerie, insomma, Feltrinelli compresa. C'è. E poi questa cosa anche che è uscita in edicola, Magico, sì. Magico Me, che prima mi ha fatto fare bella figura con un gioco che c'era all'interno, che me l'ha spiegato, visto che di questo si può dire, perché un mago non deve rivelare i propri trucchi, ma quelli magari più semplici, più divertenti, lo fa, questi giochi magici da collezione. In ogni busta c'è uno diverso. Sì, allora diciamo che è anche questo un primo esperimento che abbiamo tentato con Hachette, fare una serie di 12 trucchi collezionabili, un libretto di 16 pagine con la storia della magia, poiché io tengo sempre a ricordare, ricordare che la magia è una storia millenaria, curiosa, il libro. Tu sei poi uno filologicamente fighissimo, perché riesci a far vivere quello che è la magia, anche a livello storico, anche a livello emozionale, non è soltanto... Mi piace. Ma è bello, vedi grande Silvan per esempio come si presenta, sì, ancora, sì, cioè sì, il vero mago, no? Il grande vero mago, assolutamente. Salutando anche il nostro Birinelli, eh. Birinelli, sì, ero a cena a casa sua qualche sera fa e gli ho ricordato quel vostro esperimento meraviglioso. Beh, ma l'ha fatto con noi, sia Silvan che Birinelli fecero con noi degli sketch con Finché c'è dita c'è speranza. Silvan ancora è stato divertente, l'abbiamo fatto venire al cinema alle 4 di mattina perché dovevamo girare di notte. E la gag era questa: entrava Silva e chiedeva, mi dà due biglietti per la sala B? Sicuro, sala B? Lui fa, sì, sala B. E spariscono tutti. Faceva ridere, faceva veramente ridere. E poi invece Birinelli all'ospedale, che è andato a trovare una sua assistente, dove c'erano le gambe da una parte e la testa dall'altra, in due letti diversi, e le ovviamente sia gambe vive che la testa. Ogni tanto i trucchi non riescono, no, esatto, dire. Era questa la gag, era bellissima. D'altronde mi trovo qui per questo motivo e salutiamo in grande ironia. Pronto Veronica? Allora, pronta con la tua verve a seguire questo gioco? Vediamo se riesce. Veronica, hai le mani libere? Sì, vabbè, no, comunque sul telefono, ovviamente. Vabbè, proviamo a farlo anche con il telefono. Quindi una mano è impegnata. Puoi mettere in viva voce? Puoi mettere in viva voce? Vediamo se sì, si sente. Volendo, sì. Ecco, bene. Se si sente sempre bene, prova a parlare. Eccoci, mi sentite? Ma sì. Pure meglio di prima. C'è il telefono. Meglio. Funziona meglio in viva voce il tuo telefono. Veronica, è mica una moneta con te? No, però la recupero. Fantastico, già che ci sei, recupera anche una penna, se ce l'hai vicino. Sì, l'abbiamo detto prima, se sì? Stata distratta. Ce l'ho. Ce l'hai una penna? Sì. Hai anche una... Come parli? Hai anche una chiave. Sì. Sì. Perfetto, la chiave non dentro il mazzo di chiavi, la chiave singola. Singola, no, la levo? Sì. Sì, dai, levala. Nel frattempo... raccontiamo una barzelletta. No, no. Nel frattempo posso spezzare un'arancia. Io non sono un'arancia a mio favore. Io non sono un doppiatore, però ho doppiato le mani in un film. Vabbè, ovvero... anche quello è essere doppiatori, L'importante è che non hai corso più di un altro che doppi in angolo, quella è un'altra cosa. Assolutamente. Oppure come dicevano al papà di Ilaria, di doppiargli un film, il film virale, ti doppiagli un film. Insomma. E quindi è stata una bella esperienza. Oh, grazie. Coniglio Germano, che conoscerai. Sì, conosco di nome, insomma, lui. Io ho doppiato le mani, io ho doppiato la voce di Elio Germano. Oh, wow. Non è lui che recita nei film. Vedi che i trucchi adesso non vengono rivelati. No, anche nel Leopardi ero io, non sapevo recitare l'infinito. Ovvio, Magari abbiamo lavorato nello stesso film, era Faccia d'Angelo? Sì, sì. Non lo so, no, li ho fatti tutti io quelli suoi, non lo so. Faccio tutto questo perché qualcuno glielo ridirà a Elio e gli dirà, ma senti Dovino? Ovviamente sto va giocando. Va bene. Allora, il tuo nome è sempre... Veronica, perfetto. Veronica, e ti chiedo di mettere i tre oggetti davanti a te. Sì, va bene? Fatto. Quindi, sì. Sei d'accordo che la moneta è l'oggetto più piccolo dei tre? Sì. Ok. La chiave è quello medio? Sì. La penna è il più grande? Sì. Va bene? Ora, io non vorrei influenzare questa tua scelta, cioè, nel dire gli oggetti in questa disposizione, non vorrei che tu li mettessi proprio in questa disposizione. Allora, fai una cosa, mescola i tre oggetti davanti a te sul tavolo, tieni su una linea idealmente orizzontale e mescolali in maniera che io proprio non sappia il punto di partenza. Io non devo sapere la posizione della moneta nei confronti della penna, nei confronti della chiave. Ok, fatto. Ok? Perfetto. Bene. A questo punto, visto che non so la partenza, non posso sapere neanche l'esito finale, certo, di alcuni spostamenti che ti farò fare per spiazzare te stessa, perché magari qualcuno può pensare che qualcuno mette gli oggetti in una condizione sempre simile, in ordine decrescente. Ok, facciamo così. Gli oggetti sono davanti a te. Mm-hmm. Io ti chiedo di cambiare la posizione della moneta con l'oggetto che sta alla destra della moneta. Se alla destra della moneta non ci sono oggetti, lasciala dov'è. Lo hai fatto? Okay. Siccome non so la posizione della moneta, adesso non posso sapere ulteriormente la nuova posizione. Veniamo alla chiave. Sostituisci la chiave di posizione con l'oggetto che sta immediatamente alla sua sinistra. Ok? Se a sinistra la chiave non ha niente, la lasci dov'è. Ok. Ok, fatto? Fatto. Ultimo movimento, la penna. Io non so dove sta, tu non me lo dire, semplicemente cambia di posizione alla penna con l'oggetto che sta alla destra della penna, se a destra non c'è niente la lasci dov'è. Ok. Ok, quindi siamo d'accordo, sei partita da una condizione, una posizione che io non conoscevo, quindi io non posso sapere ora come sono messi gli oggetti, vero Pino? Assolutamente, stai qui con me, non lo so, io sto ascoltando, rapito. Prendi Quindi l'oggetto che sta all'estrema sinistra, non mi dire qual è, ok? E mettilo nella tasca sinistra. L'hai fatto? Fatto. Rimangono due oggetti sul tavolo, io non li conosco, ma il più piccolo dei due, ti ricordi che avevano dimensioni diverse, mettilo nella tasca destra. Ok. Ora dimmi, sei destra, o mancina? Io sono destra. Sei destra, e allora con la mano destra prendi pure la penna che è sul tavolo. Dove nella tasca sinistra è la chiave e nella tasca destra è la moneta che quando ci vediamo ci facciamo un caffè. Non ci credo. Non ma neanch'io. Secondo me sono fatte tutte. Hai detto a delle persone di chiamarci, Mago Gentile? Assolutamente no. No, ma è pazzesco! Vabbè, ferma, lo arresterai quando chiamate sarai un amico. Chiamate un amico e lo facciamo con uno dei vostri, se volete. Non lo so. Ci sono delle persone già in fila, non mi sembra regolare nei confronti delle persone che ho chiamato. Veronica, grazie, secondo ma esperimento. Grazie a voi, bellissimo, bravissimo. Ah, grazie. E io? Vabbè, sì. Lo senti che soffro. Arriva uno bravissimo, meraviglioso, tutti questi complimenti non ci ho mai ricevuto in diretta dalle voci dei miei ascoltatori. Va bene, dopo faremo un esperimento, parlerete solo con me la prossima puntata. Yeah. Grazie Veronica, grazie. Bravo, ciao. Un bacio a tutti, ciao. Ma che bravo, ciao. Che bravo che poi sei. Io dopo ripeterò questi giochi a Pino, così poi lui vi potrà riferire in un'altra puntata se veramente i giochi funzionano. Ma io o se vedo io soltanto okay. Concentrato sul microfono, tu hai detto qualsiasi cosa vedrai non rivelarla. Beh, ma ho non posso... un foglio ho un foglietto dove sì. Prendo appunti, dove capito, ma che posso rivelare di questo? Non niente, amico mio. Hai fatto un giuramento. Sì, ho giurato, ma non riesco veramente a capire. Abbiamo Walter. Salve Walter. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, da dove ci chiami Walter? Io vi chiamo da Monfalcone. Va bene. Provincia di Gorizia. Ma molto nord, nord-est, nord-ovest, eccetera. Ci abbiamo un po' tutto. Che bello, zone bellissime dell'Italia che io apprezzo e ammiro tantissimo. Ammesso tutta questa penisola, io amo questa nazione profondamente. Parlo artisticamente. Quando si va al nord, nord-est, nord-ovest, c'è una grande accoglienza, devo dire. Normalmente non si aspetta, non so, da Napoli, da Roma, certo. Anche la mia città, o il sud, eccetera. E invece devo dire che certe volte l'accoglienza è più calorosa in posti dove non te la aspetti. Assolutamente. Cioè, almeno un calore molto attento, senza nulla togliere a nessun altro. Vabbè, non sto facendo ruffiano nei confronti di questo nostro radioascoltatore. Allora, carissimo Walter, so che tu hai chiesto di fare un gioco di carte perché hai soltanto quelle. Sì, va bene. Non so se cogliamo di sorpresa. Okay. Hai anche un anello, Walter? Si è lasciato da poco. No, magari. Un anello che tu possa estrarre dal tuo dito. Beh, sì. Chiaramente, perché a volte sì. Un anello che si possa estrarre dal dito. Beh, sì. Vediamo. O il dito che si può estrarre dall'anello. Anche un primo esperimento introduttivo. Non riesco a capire le carte con l'anello. Un anello che si possa estrarre dal dito. Eh sì, da quello si estrae, Walter, un anello. Non è che quello non viene via. Se no, allora diventa attaccato per tutta la vita. Allora quello, prendi... Prima ci ha chiamato un avvocato, se ti serve. Non so se è un civilista o penalista, ma può essere utile. Sei sposato, sì? Sì, basta che non mi senta mia moglie, è tutto tranquillo. Ma tanto questo lo sente in podcast, tua moglie può sentirlo, eh? Speriamo di no. Allora, okay, fai una cosa, l'hai trovato? Qualcosa di simile. Va bene, qualcosa che può essere inserito su un dito? Vabbè, l'ho inserito. L'importante è che magari possa stare sulla punta del dito, che possa indicare che anche la cernieretta da Coca-Cola, insomma, quando sì, lei... Sì, sì, un anellino anche, esatto. Una cosa, qualsiasi cosa che si possa posizionare sopra un dito, anche se non è strettamente un anello. Ok? Un piccolo preservativo. Va bene. Ok, hai una mano sinistra libera? L'hai portata? No, è proprio occupata. È occupata proprio dall'anellino. Ok, una cosa, in questa mano che useremo, tu dovrai usare una mano, non ci sono altri anelli o ci sono altri anelli? No, c'è un altro anello. C'è quello che non veniva via. Esatto. Bene, ti chiederò di ignorarlo questo anello, ok? Quindi quando io alla fine ti chiederò se ho indovinato il dito sulla quale è l'anello, mi raccomando, riferiamoci all'anello che stiamo per usare. Quindi all'anello, okay. Che cosa stai usando? Un anello di che uno tipo? Uno simile, benissimo. Bene. Io ti chiedo adesso, se vuoi metti il viva voce per avere le due mani libere, se puoi farlo. Ok. Ecco. Ci sei. Ok. Benissimo. Metti la mano davanti a te, la mano che hai scelto per fare l'esperimento, e inserisci l'anello sul dito che vuoi. Non mi dire quale dito stai scegliendo, ok? Va bene. Bene. Siamo d'accordo, Pino? Non conosco la posizione dell'anello. Okay? No, non conosco neanche la posizione del dito io. Ora ascoltami, Walter, fai molta attenzione, ok? Pensa a un numero dall'1 al 10, pensalo, un numero dall'1 al 10. Ti chiederò di fare, non farlo adesso però, adesso ascoltami prima, di fare un numero di spostamenti dell'anello pari al numero che hai pensato. Che ne so, se stai pensando 1, farai uno spostamento. Ma come deve essere questo spostamento? Possono essere solo spostamenti, diciamo, vicino alle dita vicine, quindi senza salti. Sì. Quindi tu puoi andare per gradi. Alle dita adiacenti. Adiacenti, molto bene. Se arrivi al mignolo, non devi passare per il pollice, puoi ritornare indietro dal mignolo. Ok, tutti step conseguenti. Quindi pensa a quel numero e quando sei pronto ti chiederò di fare tanti passaggi quanti appunto è quel numero. Da dove parte quei passaggi? Parte da dove ha messo il dito a caso, l'anello sul dito casuale. Tu hai messo un dito a caso, a caso che noi non conosciamo, quindi può venire fuori qualsiasi altra cosa. Ah, ok, perfetto. Avanti, comincia, vai. Non mi dire il numero, fai tutti i passaggi. Sì, sì, copriamo noi il tempo di pausa, per questo io chiacchiero per radio, perché insomma siamo... L'hai già fatto? Sì. Benissimo. Okay. Ora l'anello è sul nuovo dito. Ed è un dito inimmaginabile, anche tu all'inizio, veramente, ma inimmaginabile. Uno di cinque. Ah, perché lui ha iniziato da un altro dito, sì, ed è finito, forse è ritornato su quel dito, però... Guardarsi. Esatto, non potevamo sapere questo esito. Parla per bene. Te. Io proprio non so di cosa stai parlando. Numeriamo le dita, quindi il pollice è 1, l'indice è il 2, il medio è 3, l'anulare è 4 e il mignolo è il 5, ok? Focalizzati sul dito, sul numero del dito sopra il quale adesso c'è l'anello. Quindi mettiamo che adesso, che ne so, il tuo anello sul pollice sarà 1, ok? E fai di nuovo tanti spostamenti quanti il numero che rappresenta il dito sulla quale l'anello è adesso. È semplice? Sì. Ok, metti che l'anello è sul terzo dito, fai 3 movimenti. Fatto? Fatto. Ok. Mi concentro un attimo e ti posso dire con certezza che l'anello non è nel mignolo e non è nel pollice. È vero? Sì. Esatto, quindi se puoi chiudili, ok? Li tagliamo. Poi tagliali. Taglia. Ora rimangono 3. Ora rimangono 3. Fai solo uno spostamento. Uno solo, fallo. Dove pare? Sì, o a destra o a sinistra. Sì, l'importante è che sia adiacente. L'hai fatto? Sì. Un solo spostamento, bene. Puoi togliere l'indice, puoi togliere l'anulare, perché il tuo anello è sul dito medio. Ma Dio. Oddio, mi pare troppo. Bravo come mago. Bravissimo. Bravissimo. Lo so che te devo dire. Tu neanche ci conosci, cioè conosci la trasmissione. Secondo me è qua da qualche parte. Sì, a casa tua a Gorizia. A Gorizia. A Gorizia. È incredibile. No, è vero, guarda, io lo guardo. Complimenti, complimenti. Sì. Grazie. Vabbè, la trasmissione che è bella, non è tanto il mago. È l'idea di Pino di invitarmi. Cioè, rimani senza parole. È vero, guarda, io ho l'ho vissuto da vicino. Roma, no? Siamo a Roma. No, non siamo a Gorizia, con tutto il rispetto, siamo un po' lontani. Va bene, amico mio, grazie. Grazie. E complimenti ancora per la trasmissione. Grazie, grazie davvero, grazie davvero. Grazie. Beh, Marco, 3 su 3, ce ne abbiamo un altro dopo, a questo punto voglio andare avanti. Andiamo in pubblicità. A tra poco, signori miei, a tra pochissimo. Ciao. Sanatomi. Siamo veramente sconvolti, stiamo parlando di PNL, di comunicazione non verbale, stiamo parlando di fortuna. Cold reading. Sì, ma 3 su 3 ragazzi. Abbiamo un'altra telefonata, Rachele? Rachele? Abbiamo un'altra telefonata? Abbiamo risolto il gioco, vabbè, ma quale gioco? Mi dite, non mi parlate dell'auricolare, c'è un'altra telefonata, c'è Federico. Federico, eh beh, ditemelo, eccolo, dai, che io sono proprio... Io e Ilaria siamo spettatori silenti di questo momento bellissimo. 3 su 3 con 3 giochi diversi uno dall'altro. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, che bello, questo è un DJ. E complimenti per la trasmissione. Grazie, Federico, da dove chiami tu? Da Velletri. Da Velletri. Sei velletrano o sei l'imprestito per questi giorni di festa? No, solo per questi... Ah, abbiamo Alessandro che è di Velletri qui, il nostro fonico, il tecnico del suono. No, io sono solo di passaggio per queste feste, poi torno in Abruzzo. Ah, sei abruzzese, vabbè, un altro posto dove si mangia bene, insomma, dai. Beh, sì. Arrosticini su tutto. Evviva. Evviva. Allora, abbiamo qui 3 su 3, pensa Federico, 3 su 3 di persone... completamente sconosciute, questo è il quarto. Beh, di questa... ho sentito attraverso la diretta qui al telefono. No, ma è pazzesco, noi siamo veramente mostruosi, non so se l'hai mai visto in televisione Gabriele, ma... Sì, mi era capitato di vederlo un paio di volte ed è per questo che volevo partecipare. Allora, che gioco gli facciamo a Federico? Allora, Federico, devo entrare un pochino in rapporto con te. Arrivano tantissimi messaggi di congratulazioni. Uno dice addirittura, dopo le carte, è un gioco facile per te, i prossimi tre numeri sulla ruota di Venezia. No, li ho, Un altro mi saluta come Joe Aitich. Sì, io ringrazio il mio nome d'arte americano, Joe Aitich. Ah, Pino Insegno. Bravo, ci sei arrivato. Giuseppe Insegno. Va bene, vediamo questo gioco nuovo, sono molto curioso. Federico, ciao. Allora dimmi, tu conosci l'inglese? Beh, non lo so, ma mica... chiedo. Tu conosci? Un pochino sì, perfetto. Okay. Hai carta e penna davanti a te? Allora, no, però... No, ti faccio... Se no ti chiedo un'altra cosa, ti faccio anche... Se vuoi... Come preferisci, perché mi può arrivare carta e penna... Fai arrivare carta e penna anche, Federico, carta dai. Carta e penna ci piace, molto carta bene. Carta e penna arriva subito. Immanentemente. Molto bene. Quindi facciamo una piccola introduzione per capire... La mente tua. Arrivata carta e penna. Ti chiedo di scrivere una cosa su questo foglio. Se volete, fatelo anche voi. Pino, ecco, anche tu se foglio. Vuoi. Ecco la penna. Anche voi a casa. Vi chiedo di scrivere una parola magica. Ecco, dividiamo questa in due. Questo voi sentirete anche l'effetto sonoro. Esatto. Eccolo qua. E questa parola è la seguente. H, scrivilla anche tu, Federico. Sì, sto facendo. A. S. As. Sì. T. E. Aste. R. Aste. I. X finale. Asterix. E per chi è? Il giro del gallo. In realtà è una parola magica, perché di parole magiche non esiste solo abracadabra, ma esiste ad esempio hocus pocus, simsalabim, sì, sì. Asterix è un'altra parola magica, ok? È una parola magica? Assolutamente, sì. Però sì. Non si nomina, sembra che stia nominando il personaggio di Oderzo, no? Ma è una parola magica molto antica. Io ho un'enciclopedia del Settecento. Il grande libro della magia. Esatto, è uscito, lo racconterai. Spiega, qui. Questa parola è ricorrente, assolutamente. Molto bene. Dimmi una cosa, Federico. Carte rosse o carte nere? Così, a mente. Nere. Perfetto, allora immagina di dare a noi queste carte nere. Immagina di passarle attraverso il tuo telefono in maniera che arrivino a noi e rimangano per te tutte le carte rosse, che sono almeno 26, okay? Adesso ti chiedo velocemente, le alte vanno dal 6 al re, le basse vanno dall'asso al 5. Quali vuoi tenere nella mano destra, idealmente? Alte o basse? Le alte, quindi dal 6 al re, ok? Bene, dividiamo 6, 7, 8, 9 oppure 10, fante, donna, re. Cosa metti nella mano sinistra? 6, 7, 8, 9. Nella mano sinistra, eh? Nella mano sinistra, nessun problema. Ok, ora facciamo due coppie, o il 6 o il 9, o il 7 o l'8, che dovrai passare a noi. Quali? 7, 8. 7, 8, devi passare a noi, come prima, quindi passali a noi. Quindi per te hai un 6 e un 9, 6 e 9, ok, benissimo. Non ho capito niente. Ok, 6 e 9. Bene, tra cuori e quadri. Che cosa, dove va la tua attenzione? Cuori tutta la vita. Potevi dire quadri. E quindi avremmo avuto o un 6 di quadri o un 9 di quadri, perché siamo arrivati al 6 e 9. Hai voluto cuori, quindi o 6 di cuori o 9 di cuori, ok? Se tu avessi operato altre scelte, adesso avresti in mano altre carte. Se prima avessi scelto, che ne so, le basse, avremmo avuto un altro esito. Non ho mai giocato a esclusione, perché ti ho sempre detto: cosa vuoi dare a noi per rimanere a te, ok? È qualcosa di molto chiaro, ok? È sempre rimasto a te. Bene, ti chiederò una cosa molto semplice. La carta che stai per dire, o il 6 di cuori o il 9 di cuori, sarà la carta che useremo, ma senza giocare su questa risposta, senza mediare in alcun modo. Scegli una delle due. Fatto. Dilla pure. 9 di cuori. Il 9 di cuori, perfetto. Prendi la penna e fatelo anche voi. Sì. Voi non sapete che nella parola asterix c'è già la soluzione. Cancellate. Sì. Dobbiamo cancellare, tu hai scelto cuori, quindi in inglese è hearts. Hai detto 9 di cuori? Sì. Hearts. Quindi cancellate la H da asterix, la E, cancellate la A, cancellate la R, cancellate la T e la S. Sì. Vi rimane un numero romano. Oh, 9. No. A casa tua e anche sul vostro foglio e a casa di chiunque abbia provato questo esperimento con carte scelte da te, con una scelta libera, e questo era già predetto sin dall'inizio. Tu non sei il mago gentile, sei il mostro. Sei bravissimo. Grazie, grazie. Che bello. Grazie, che grazie. Figata. Senti, ma sei libero domenica prossima? Facciamo tutto il giorno così. Si chiama Magic Anatomy. Cambiamo tutto. Ma se lui avesse una calcolatrice, potremmo provare un'altra cosa particolare. Dico una calcolatrice. Ma pure, come fa? Sul telefono ce l'ha magari, però... non sei andato. Ha provato, forse ha provato, su mia indicazione, a aprire la... Mamma mia, ragazzi, pazzesco. Yeppa, penso. Va bene, che bella cosa. No, no, non fa niente. Abbiamo altri. Abbiamo detto a 4 e ci siamo fermati. Non è un problema, allora tornerò. No, quello sicuramente, no, ma siamo veramente basiti. Chi ci ha seguito, sicuramente, magari, ecco, cioè. Uno su tre che vuol dire? No. Uno su tre, ma che vuol dire? Uno su tre dei giochi che ha fatto, ma deve giocare con te direttamente, non è che vale su tutti quelli che stanno a casa. Certo, signori, certo, no, un altro due su tre, no, ho giocato anch'io e gli ultimi due giochi sono venuti anche a me. Hanno il copyright perché li farei fare ai miei pazienti se mi date l'ok. Un abbraccio, Valeria da Como. Oh, che carino. Il fumo che l'ho carino. Visto anch'io da uno che faceva il corso da Tony Binarelli, no, l'ho visto. Qual è il trucco? Vabbè, sei magico, unico, vabbè, tante cose. È ovvio che il gioco deve farlo personalmente, che ognuno di noi avrà scelto, sì, poteva scegliere una carta diversa, lui si sarebbe comportato. Sì. Ricordo il numero 800 24 00 24. E poi voglio anche il collegamento oggi con Maina Gioia, che ormai quest'anno invece, se non è così, Capuano è diventato sempre una gioia per me sentirlo. Per cui facciamo gli ultimi 2-3 minuti per sapere i risultati, sia del... c'è stato anche l'automobilismo, mi pare, non voglio sapere niente, mi faccio dire tutto da lui, e sicuramente se abbiamo qualcuno. Ilaria, ti sei mai cimentata a queste cose? Ti piace la magia? Ci credi? Moltissimo. Sei scettica? No, sono affascinatissima. Perché ognuno di noi è scettico, sì. C'è poco da fare, solo se capita a te stesso, ti vede il marziano e dici: perché non mi credete? Perché tu non crederai mai a una persona che dice: io ho vissuto questa realtà. Sai quanta gente racconta, certo, di realtà pazzesche, che è irreale, cioè, non ci credi. Cerchi sempre di banalizzare un racconto, di dire forse hai bevuto, forse stavi dormendo, forse non ti sei sbagliato, ma non è così. E in realtà gli alieni ci sono si misteri, nascondono fra ci noi. Ci sono misteri, esatto. Tu non hai fatto X-Files, vero? Però The Arrival. Hai fatto The Arrival, ma lo devo vedere, ancora devo uscire. Ma è bello, bellissimo. Bello. Io l'ho visto, sì, io l'ho visto. Sì. E tu eri la dottoressa? Era lui. No, ma c'erano più figure femminili. No, qui siamo protagonisti. Non ci alziamo mancare la mattina. Lei su The Arrival faceva la Arrival. Facevi l'inchiostro con il quale... O faceva lei o faceva la data d'arrivo, cioè non è che te puoi alzare. Che bel film. Invece ero al cinema qualche tempo anche fa. Anche Passengers è bellissimo. Passengers. Un altro film di questi fantascienza, fantarealtà pazzesco. Sì, Passengers è meraviglioso. Bello davvero, davvero. Guardato, perché piangi pure. Mi sono fatto due belle lacrimucce. Anche qua piangi. Vabbè, piango pure con John Wick io, per cui pensa un po' a te. Qualche tempo fa stavo guardando Elid al cinema e mi ritrovo la voce di Pino. È stato veramente... Quale film? No. Elid. Ah, bellissimo, bellissimo. Alla Silvestri, sì. Infatti, credo di averti telefonato a fine. Sì, bella, a parte che ho pianto. Bello, si piange, sì, anche lì. Ho pianto anch'io, non l'avevo visto. Doppio l'amico suo, il colonnello dell'esercito, amico di Brad Pitt. Grande finale, però, Pino. Grande, sì, finale. Non lo sapevo il finale, anche se l'ho doppiato. Non è arrivato fino a quella fine. Mamma mia. Finisce di parlare poco prima. Va bene, per cui ho pianto. Andiamo in pubblicità per fare l'ultimo blocco insieme. Ultimi 10 minuti insieme. A tra poco, voi sanatomi, il mago gentile da Fabriano, no, da Savona, e la mia grandissima amica e collega Ilaria Latini. A tra poco. Voice Anatomy. Eccoci qua per l'ultimo blocco insieme con il mago gentile Gabriele e Ilaria Latini, che ricordava Rachele poco fa nell'interfono, ci ricordava che Ilaria in Twilight doppiavi chi prediceva, quella che prediva il futuro. Sì, la famosa sorella. Tu eri vampira, che eri uomo? Ero vampira. Ma intanto quel paese a me mi fa ridere nel Maine. Sono 300 abitanti, 240 sono vampiri e 56 sono meccanici a omini lupo. uno farà, c'è un negozio alimentare che ha chiuso, che dice cazzo sto facendo qua, e l'altro si sollega il padre. Esatto. Per cui esatto, con chi te metti lì caschi male, insomma, nel main, tutto nel main succede. Certo. La patria preferita è Stephen King. Senti, abbiamo una telefonata, santa miseria, questa non è una radio di telefonata a richiesta, per cui è difficile chiamarle al volo così. Perché lo faccio a voi? Ah, magari, ma lo so, intanto però... ormai si fidano. Dai. Sì, intanto, ma è una cosa veloce. In effetti sì, dai, però anche perché dai. La predizione che sto per fare la possono fare anche da casa. Esatto, coloro. Allora, giocate chi non ha avuto il coraggio. Prendete una calcolatrice. Tu c'hai il telefono, dai. Va quindi bene. Anche da casa. Senta che fai una calcolatrice. Aspetta, tolgo. Togli, metti in modalità aereo. Bella, anche Rachele, ora... anche Alessia, anche Mauro e anche Alessandro sono con la calcolatrice. Vai, bene, per ora insieme. Mettetela da parte, quindi appoggiatela al tavolo, bene, deve essere pronta all'uso. Vieni qua, vieni Ila, vieni vicino a me. Ila, su un foglio di carta. Pure, eccolo. Sì. Scrivi questa mia predizione. Sì. E potete farlo anche voi a casa. Vai. O ovunque voi siate. 6315. 6315. 6315. Uh-huh. Più. 3200. No, vabbè. Lo metti in colonna? No, come vuoi. No, perché useremo, dopo mi... useremo la calcolatrice. Sì. 3200. Per evitare sì, errori. Sì. Più. Più. 3062. Quindi 3062. Sì. Ok? Sì. Sì. Questa è la nostra predizione. Non fate calcoli per ora. Ora apro l'applicazione. Questa. E proviamo a fare una piccola prova. Pino. Sì. Mi digiti allungando il dito tre cifre. Quelle che vuoi. Tre cifre. A casuale. Le posso dire? Se vuoi, sì, sì. Okay. 5, 2, 4. Poi fai più. Più. Ecco. Fai. Ora non le dire più, tienile a mente. Altre tre, vai. Altre tre. Ok. Per. Madonna, è complicatissimo. Una cifra sola. Ho fatto lo scientifico io, ma. Per. Per. Un numero di due cifre. Ok. Fai uguale? Sì. Cos'è venuto, Pino? Dillo. 12.577. Ok, vi fidate di Pino Insegno? Sì. Qualcuno di 12.577. Facciamo vedere anche in regia, ragazzi. O sì, sono tutti bugiardi o... No, no, quello voglio fare. Parte il primo, sì, è testimone Ilaria, insomma. Ma prima ancora di fare queste operazioni... Ci hai dato tre cifre. Vi ho dato tre cifre. Sì. Sì. Mano alle calcolatrici. Vai, allora, 6.315. E sommate. Più. Più. 3200. Ok. Più 3062. Uguale? No. Vabbè. 12.570. No, vabbè, ti odio profondamente. Cioè. No, vabbè. No, io ho fatto a caso i numeri, Ilaria è testimone. Sì, sì, sì, vuoi proprio farlo così, tu? Cioè, muoveva anche il dito intorno. Non siamo parenti, non vabbè, siamo parenti. Quello potevo pure far finta, ma insomma non... Questo no, faremo una ricerca. Siamo molto amici, questo sì. Sì, tanto amici. Siamo veramente tanto, amici, veramente. Perché ci stimiamo uno con l'altro, non sì, perché ognuno di noi nasconde bene dei trucchi. Chi c'è? Capuano? Non l'ha fatto il gioco. Capuano! Eccomi qua. Che giornata. Che giornata in che senso? No, no, no, no, che giornata, nel senso, no, io lo so di... in che senso che giornata. No, no, devo dire che quest'anno è cambiato tutto con te. Sei sempre una gioia hai per visto, me. Hai visto. No, abbiamo fatto degli esperimenti di magia per radio che sembrava una presa in giro e invece ha avuto un successo pazzesco, perché con persone che non conoscevamo, che hanno telefonato, abbiamo prenotato quattro persone, quattro giochi di magia diversi, sono riusciti tutti e quattro, è una cosa da mentalisti pazzesca. Te ne farei uno pure a te se c'è tempo. Ce n'hai uno? Se avete loro tempo, volentieri. Ce l'hai un minuto? Vai. Ok, Capuano, mi dici il tuo nome? Giovanni. Giovanni, sì. Giovanni. Giovanni, hai un foglio di carta? Se non sì, ce l'hai un pazzo. No, un stai scherzando. Con una penna, bene. Ti chiederò c'ho una di essere, tonnellata di fogli di carta. Di essere molto preciso, vai. Ok, Giovanni? Vai. Ti chiedo di pensare una carta da gioco. Escludi i jolly, chiaramente. Sì. I jolly non ci interessano. Da 1 a 10 pensa, più le figure. Le carte vanno dall'asso al 10, poi c'è fante ad una re, esatto. Quindi esatto, alcuni confondono penso il re se con il 10. Se giocato l'ultima villa così, okay, tranquillo, Capuano sta messa alla strada. Esatto, quindi scrivi su questo foglio per fatto, non rischiare di dimenticarlo, il valore e anche chiaramente il seme. Sì. Ok? Fatto. Benissimo, io qui ho un mazzo di carte che mescolo, dovresti sentire... Beh, ti auguro. Sì, ma se non è radio, qualcuno che ha fatto esatto, il pernacchione che si è dato delle arie Capuano erano le carte, non si può, ti non prego, si può, non, si no, può, non si può, non c'è Cruciani in giro, sono cose normali, dai. Ok, io cercherò di diventare amico della tua voce per capire poi come interpretare le tue scelte future, ok? Vai. Giovanni, adesso io ti leggo un po' di carte, quelle che ho mescolato qui. Quando ne avrò lette un po', ti chiederò se fra queste carte hai sentito la tua. Ti prego di dirmi la verità, sì, di non cambiare la carta. Guarda, l'ultimo. Ho fatto vedere a Valeria qui in regia che cosa ho scritto. Ciao Valeria. No. Perfetto. Ok, te le leggo così come sono. Due di cuori, cinque di fiori, donna di quadri, asso di picche, dieci di cuori, tre di fiori, cinque di quadri, donna di picche, otto di cuori, sette di fiori. Qui in mezzo c'è la tua? No. Ok, vado avanti. Nove di quadri, tre di cuori, re di picche, due di fiori, otto di quadri, quattro di cuori, quattro di picche, re di fiori, quattro di quadri, sei di cuori. C'è la tua? No. Andiamo avanti, siamo quasi a metà. Re di quadri, sei di picche. Il mazzo è composto da... Certo, sapete, certo, vai. Re di quadri, sei di picche, nove di cuori, otto di fiori, sette di quadri, fante di picche, fante di cuori, nove di fiori, asso di quadri, due di picche. C'è la tua? No. Fantastico, sono quasi finite, ma ci deve essere per forza. Quattro di fiori, sette di picche, jack di quadri, cinque di cuori, asso di fiori, tre di picche, sei di quadri, sette di cuori, donna di fiori, nove di picche. C'è? Sì. Ok, tra cerco queste c'è. Asettico. Ma infatti sento. Ma lui è così. Ma in emozioni, ma in gioia si chiama. Adesso le rimescolo, prendi la penna. Sì. Dai, con questo rumore. Prendi la penna e cerchia quello che hai scritto, quindi il valore della carta, non me lo dire chiaramente, cerchialo con la penna, è importante questa azione. Che mano hai usato, destra o sinistra? Destra. Molto bene, adesso ti rileggo le carte nel nuovo ordine, va bene? Sì. Non dirmi niente per ora. No. Va bene? Ok. Due di cuori, nove di quadri, re di quadri, quattro di fiori, dieci di quadri, cinque di fiori, tre di cuori, sei di picche, sette di picche, otto di picche. C'è la tua? No. Vado avanti. Donna di quadri, re di picche, nove di cuori, fante di quadri, asso di cuori, asso di picche, due di fiori, otto di fiori, cinque di cuori, jack di fiori. C'è la tua? No. Bene, siamo a metà. Dieci di cuori, otto di quadri, sette di quadri, asso di fiori, due di quadri, tre di fiori, quattro di cuori, jack di picche, tre di picche, cinque di picche. C'è la tua? No. Siamo alle battute finali. 5 di quadri, 4 di picche, fante di cuori, 6 di quadri, donna di cuori, donna di picche, re di fiori, 9 di fiori, 7 di cuori, 6 di fiori. C'è la tua? Sì. Ok, ne ho dette veramente tante, ma sì, quello che ti posso dire è che la tua carta, no, vabbè, provo, è di cuori? Ti devo rispondere? Sì. Sì. Tu stai pensando, Giovanni, al 7 di cuori? Vabbè. Dai. No, Capuano, è quella. Sì, è quella, è quella. Ho, no, testimone, vabbè, ho testimone l'ottimo Valeria. Beh, vabbè, è pazzesco, guarda, è pazzesco. No, questo non si capisce. Sette, allora, do dei risultati: 1 a 0, 1 pari, 2 a 1, 2 pari, 3 a 2, 3 pari. Con la stessa velocità ti do i risultati. Dammi i risultati, se vai, vuoi, eh. Fammi indovinare qual è. Ne so solo uno oggi perché ha giocato prima. Dimmi tutto. Allora, Capuano, vabbè, Roma-Lazio, lo sai: 3 a 1, sì, per la Lazio. Il Milan ha pareggiato a Crotone 1 a 1, Trotta e Paletta. La Fiorentina ha perso clamorosamente a Palermo 2-0, allora, Diamanti e Alesami. Il Sassuolo ha vinto 3-1 a Empoli, Peluso, Pucciarelli su rigore, Matri e Duncan. E la corsa salvezza è aperta ed è aperta anche per il Genoa, che ha perso in casa, è stato rimontato, ha perso 2-1 contro il Chievo. Poi c'è il 4-0 del Bologna sull'Udinese e l'1-0 del Cagliari sul Pescara. La classifica: Juventus 84, Roma 75, Napoli 71, Lazio 67, Atalanta 64, Milan 59, Inter 56. Quindi questa sera l'Inter potrebbe anche agganciare il Milan al sesto posto. In fondo Genoa 30, Empoli 29, Crotone 25. In tre una scenderà in Serie B e due si salveranno. A me serie sono stato sintetico. Sei stato così strepitoso. Ma il moto mondiale... C'era la Formula 1. Ha vinto Bottas a Sochi, prima vittoria in carriera. Il resto del podio è tutto Ferrari, secondo Vettel, terzo Raikkonen, quarto Hamilton, che ha 13 punti di distacco, cioè da recuperare su Vettel nella classifica mondiale. Però torniamo dalla Russia con un po' di amaro in bocca, perché ci eravamo abituati dopo le meravigliose prove di ieri all'idea di una Ferrari dominante, invece Bottas è stato straordinario in partenza e poi non l'ha più visto nessuno. Ho capito, però insomma secondo e terzo eravamo abituati anche, sai, a questo, esatto, però noi siamo così, noi facciamo in subito fretta, esatto, a farci di bocca buona. Sì. Caro Giovanni, sei stato stupito? Abbastanza, devo dirti la verità, anche perché adesso ci rifletterò una settimana, ma non ho capito come ha fatto. No. Ci vuole riflettere. Ha tirato fuori una quando ha detto ah, vabbè, lasciamo stare. Saluta Valeria, saluta tutta la redazione di Milano, saluta tutti, grazie Giovanni, grazie. Noi siamo come subito sempre. Dopo il GR, tutti siamo convocati dopo weekend. Vabbè, ormai dai, lo sanno, siete bravissimi, straordinari. Un bacio enorme, un abbraccio a tutti voi, ciao. E un abbraccio a tutti quanti voi. Grazie Ilaria Latini, grazie della tua presenza, un abbraccio a te, a tutte le persone della tua famiglia, a tutti quelli della nostra famiglia, questi grandi attori, doppiatori che ci circondano. Grazie a tutti voi radioascoltatori, sempre fedeli a volerci così bene. Ce ne sarà pure un motivo, certo non sarà nei miei confronti, ma negli ospiti che ci sono sempre, no, che rendono ricca questa trasmissione. Ma sono un bravo traghettatore, ma il resto lo fate voi. Grazie, gentile, mi hai stupito ancora una volta. Grazie a te Pino, grazie Ilaria. Riesci a stupirmi, ti conosco veramente tanti anni, come se tu dovessi venire a me a teatro, dici mi hai fatto ridere ancora dopo 30 anni, ed è quella la cosa più grande. Ricordo in libreria il grande libro della magia e dei trucchi più famosi, bellissima impaginazione, sembra il libro del Guinness dei primati, ricchissimo, bello. Costa meno. Sì, quello sicuramente, però è bello, impaginato benissimo, è di facile lettura e anche molto interessante. E questo Magico Me, che invece esce in edicola, collezionabili. Collezionali tutti! Sì, me lo faresti uno spotino? Quanto me dai? Vabbè. Te lo faccio, come si chiama questo qua? Giochi magici da collezione. Un gioco magico per stupire gli amici, più un fascicolo, una scheda di istruzioni. Magico Me. Ma io ti adoro. Poi ce li fai i regali. Va bene. Fino. Ciao Rachele, grazie, fedele collaboratrice. Grazie Alessandro. Grazie ai miei due straordinari autori, compagni di viaggio, che hanno portato questa trasmissione al successo e diventerà anche qualcosa di più. Fra un po' ve lo diremo appena succederà. Grazie a Alessia Navarro. Grazie a Mauro Meconi. Grazie a tutta Radio 24. Ciao a tutti e buon proseguimento con tutti i convocati dopo il GR. Ciao!